rivedi tutto. Non chiedere perché ogni tanto fa così. Fa un po' cagare su un tablet e smartphone. Sono 60 qualcosa più. No, benvenuti! Bentornati! Tycoons and Dragons, Rift GDR, più o meno... Sponsored by? No. Più o meno al completo, anzi no, al completissimo, completo, perché c'è anche il nostro... Ah, è bello che vediamo le due... Questa chiamano da Milano, questa è la Amadine. Sono due... Vabbè, fate l'introduzione voi. Un po' si blocca. Pronto? Non so perché è sui mobile. Sarà meglio che ce l'abbia il panino stavolta, eh? Sarà la bomba termobarica stavolta, è vera. Ah, buona, vecchi Martini. Pensa che uno aspetti di giù. Che arrivi. Ecco, vai. È arrivato. Okay, lo fanno anche da me. Secondo voi, sintonizzate per la... Ok, ciao. Con i nostri amici di Globo, qua, benvenuti. Diretta, campanello che suona. Assurdo. Stop, suona nana che fuma. Sale è un bosi collegato. No, però forse è più Sale è un bosi, l'altro qui. Anche di là. Ma non mi vedo. Ah, mi vedono là. Mi ha tolto la cazzo. No, sei un cazzo. Mettile, scusa. Dai, Giulio, aprigli. Chiave. Allora aperto, sì? Ah, no. Beh, era meglio di là. Il piano. Quello sopra è... No, era meglio rimettere l'ho aperto, visto che la porta si stava aprendo, mi stava entrando. Metti la tre. Siamo qua in attesa del nostro ordine da McDonald's. L'ennesimo. Il secondo, e se ne racconteremo. Per ora il secondo. Per ora il secondo, esatto, ma la sera è giovane, potrebbero succedere tante cose. Esatto. Oggi giochiamo finalmente a The One Ring, o meglio, prepariamo. No, non è vero, non giocheremo, proprio no. Ci ho provato. Il nostro master Giulio vi spiegherà, anzi cercheremo di capire uno dei miracoli, la moltiplicazione dei panini dei pesci. Vabbè, cercheremo di capire. Pesce, potevi darle a mano. Vieni qua te, c'ha tre cose in prima io da solo con 70 euro di ordine, adesso forza, andiamo io tutti. Sono 70 euro che questo ordine è qua, quindi vai. È arrivato il grosso. Vediamo cosa manca adesso. Anche se non manca cosa faremo mancare, vuol dire. Allora, lo scotch c'è, vuoi fare le foto passaggio dopo passaggio? Assolutamente sì. Vediamo c'è cosa manca. L'unboxing. No, fai un video. Allora, dai. Unboxing. Guarda che mondo siamo arrivati. Aspetta, ti faccio la diretta su Instagram. Avremmo ancora fatto. Scusa. Veramente? Aspetta allora. Diretta, ma no, è una storia. Siamo molto più produttivi da remoto. Io spero questa cosa. Ma quello è così normalmente. Ah, faccio la storia, dici? Molto meglio la storia, Lez. Va bene. La diretta è proprio. È da boomer. Da boomerissimo. Vai allora. Unboxing. Allora, intanto vediamo. Intanto c'è sullo scontrino. No, la storia dura poco. Arci, apri tutto. No, Arci, è una storia. Muoviti, Arci. Dai. Anche secondo se ne sappiamo ordine, che vederlo sullo scontrino non vuol dire vederlo nel vivo molto divertito. Ma poi devi fare tovaglioli, li avevo ordinati i tovaglioli. No. Allora, Toast. Eccola. Poca zero. Double Burger CBQ e io sono a posto. Ah, sono piccoli. Sono salvo. Double Chicken Fuzzy Bob. Etero. Ti prendo in giro, patatine. Ma l'ho preso uguale. Esatto. Ovviamente. Hamburger? C'è l'hamburger. Ceo. Io? Scusami. Poi c'è una patatina. Oh! Poi una strana cosa, dica. Una cosa da lunga. Ma hai preso una patatina? Sì. Allora tieni. No! È anche bella lunga. Va bene. Sembra esserci tutto, quindi ora mandiamo. Ora mangiamo in fretta che mandiamo una foto a Globo. Sarebbe da riprendere. No, scherzone, dai. Grazie Nadia. Storia più lunga. Grazie Nadia, esatto. Ringraziamo Nadia. E se McDonald's volesse sponsorizzarci... No. Cazzo mi inquadra. Sai che dopo questi ordini scelgo il McDonald's non vuole sponsorizzarci. Come? Siamo noi che sponsorizziamo lì. Dici? Ci continuiamo così. C'è ogni sessione ci dà da mangiare? Va bene. Ok, avete capito che giocheremo... No, non è vero. Questo è il prologo della nostra campagna che si sta per concretizzare... Di The One Ring, giusto il nome del gioco? Ambientato in Arda, il mondo del Signore degli Anelli, dove Katta ci manderà tra poco non sarà affascinante come l'ambientazione di Venezia di The Rise of Trasgal, ma magari sarà più posso anche dire che è la seconda edizione del gioco. Bravo, presentacelo Giulio. Ah, la nostri prima, ospiti li presento la io la prima Giulio è stato Bosch, un fallimento ma non sei per noi, il, per noi, non sei il master ma lore sei master. Il lore master. Quindi secondo... Lore Master Giulio Bosi. Come Lore? Il nostro Lord. Lord. Filo Lord. Seconda Stefano Gamberoni, gioco. Scusa, vi presento. Enrico Catabriga, Francesco Arcidiacono che torna con noi. Bentornato. No, si nota da quello che... Giacomo Vecchi. E poi abbiamo in collegamento Edoardo Saladini e Marco Bosi che con pazienza si uniranno a noi in questa sessione dove costruiremo il personaggio e Giulio ci spiegherà come funziona più o meno. Vai Giulio. Vai già, ok. Cosa volete? Un'introduzione a dove siamo? Oppure iniziamo subito con i personaggi e come si gioca? Beh, una... prima come dove siamo. Esatto, una vaga spoilerata. Ok, l'anno è il 2965 della terza era. Eccoti qua. Cosa vuol dire questo? Tutto e niente. Tutto e niente. Vuol dire che sono passato... Ma chi è Aule? No, sono passati 24 anni dalla battaglia dei 5 eserciti che c'è nell'Hobbit e dalla riconquista della montagna solitaria. La situazione è tranquilla, ma si sa che a Mordor Sauron è tornato. Infatti Sauron is back! Sauron è tornato e ha fatto il suo annuncio di ritorno esattamente... Con un comunicato stampa? Esatto, 14 anni prima della data... iniziamo a giocare. Quindi nel 2951 Sauron ufficializza il suo ritorno a Mordor. Quindi tu ci stai dicendo che tecnicamente qualcuno di noi potrebbe essere andato lì, aver concordato con lui la situazione ed essere tornato di là. No. Diciamo che non hai capito, qualcuno di noi potrebbe essere Sauron. Anche il figlio di Sauron. Il figlio di Sauron. No, significa che bello. Non tutti voi comunque, perché siete molto lontani dal fronte, diciamo, dove si combatte, dove già comunque si sta iniziando a combattere, ma alcuni sicuramente sanno che la guerra non è ancora guerra aperta, ma sta per iniziare. Infatti, l'Ithilien è già un territorio sostanzialmente abbandonato. L'Ithilien è quella parte... est di Mordor, al di qua delle montagne, che in teoria è verdeggiante, però è già stato abbandonato perché da 11 anni il Montefato si è risvegliato e quindi è tutto nebbia, ombra e fuoco. Ma in assenza di Sauron si sa cosa c'era? In assenza di Sauron? Cioè a Mordor c'erano comunque gli orchi o c'erano gli orchi, c'erano degli umani malvagi, ma nessuno c'è. Poi comunque Sauron, voi suoi luogotenenti, c'è che girava lì nella zona. La gente non ci andava, cioè Mordor non era mai lì. Perché mi ricordo che Gondor prende quella che, l'hai detto forse adesso, quella che è Minas Morgul, che è Minas... Ithil, ok, sì. E quindi l'ha già ripresa. Però qui siamo a 2000 anni fa. Cosa? Non... No, Minas Ithil cade molto prima e non viene mai più ripresa. Non ci torna, no? Allora, ci torna la prima volta. Quando Sauron, ma ancora nella seconda era, la conquista, perché viene creata nella seconda era, come avamposto di Gondor, cioè dei regni uniti di Arnor e Gondor, per sorvegliare Mordor. Ed è la prima che cade. Poi vanno Sgiliath, però Sgiliath resiste, dove c'è uno dei figli di Elendil, che si chiama, non è Isildur, è l'altro, Anarion. Anarion, sì. Che sarebbe il fratello minore. Non c'è nella serie, non capisco di cosa stai parlando. No, c'è, viene citato. Però è in viaggio verso ovest. Non mi pare, non capisco. Comunque, lì viene conquistata l'albero che è lì, viene spostato a Minas Tirith. Vabbè, cade, però poi resistono, poi la riconquistano e torna a essere, dopo la sconfitta di Sauron, un avamposto. Ma poi a un certo punto tornano in Nazgûl. Prima che torni Sam, tornano in Nazgûl. E diventa più o meno la roccaforte del resto degli stregoni. Non mi ricordo se prima o dopo le faccende di Angmar, ma forse dopo. Ma comunque da svariate, da almeno un migliaio d'anni, Minas Ithil è Minas Morgul. Ah, ma quindi lui è già tornato lì da un po'. Era di stregoni, sì, almeno mille anni. Ok, questo. Non mi ricordavo che. Ma forse c'è qualcos'altro. Infatti, un'altra data che può essere utile, ma questa per gli elfi della compagnia, è che 990 anni fa c'è stata la caduta del regno di Angmar. Gli elfi sono gli unici che potrebbero avere ben in mente l'evento. Poi altri dettaglietti. Diciamo che questi sono più o meno nel 1965, non si sa nulla di particolare nel dettaglio dell'anno, ma nel periodo prima e dopo è il periodo dei viaggi di Aragorn, in cui Aragorn viaggia per la Terra di Mezzo e con il nome di Thorongil serve sia Tengel, che è il padre di Theoden, sia Ectelion, che è il padre di Denethor. In questo periodo, perché ricordiamolo che Aragorn in realtà era un vecchiaccio, aveva 80 anni aveva. Ma perché è di razza Númenoreana, che nella serie non fanno vedere, ma vabbè qualcuno ha qualche dente avvelenato. Allora, comunque nel 2060 non usiamo questa campagna per esatto, non usiamo nel 2960. Nel 1965 Frodo ha 3 anni. E noi lo conosciamo tutti. Aragorn ne ha 34. Theoden ne ha 17. Denethor 35. E babbona. Gli altri non li ho scritti. Tanto gli elfi ne ha comunque migliaia. E qualcuno potrebbe sapere di voi. No, in realtà nessuno di voi mi sa che lo sa, però. Il Bianco Consiglio si è riunito l'ultima volta 6 anni fa. Il Bianco Consiglio. Quindi Saruman si è rifugiato. Nell'ultimo Bianco Consiglio Saruman è riuscito a convincere gli altri a non proseguire nella ricerca dell'anello, di ignorare la cosa. Che poi in realtà Gandalf non ci sta, siccome il Bianco Consiglio sono lui e Gandalf. Non E in più, perché alla fine l'altro è un pazzo che si fa le canne, e poi ci sono Galadriel, eccetera, che sono lì che dicono sì, lui. In realtà il capo del Bianco Consiglio è Elrond. Bianco Consiglio è Radagast. No? Galadriel. C'è Galadriel, Elrond, Radagast. Gandalf ci sarebbe probabilmente. Ma c'è anche e Celeborn o no? Celeborn è un po' un figlio di Dio Minimone. Però potrebbe. Non mi ricordo. Kirdan c'è. Comunque non è importante. Celeborn in generale. Tanto non lo nominano neanche il marito di Galadriel, dovrebbero farci una figlia che poi sposa Aaron. Beh, però nel video del Taking the Hobbit di Isengard dice Balrog of Morgoth. No, scusa, no. Balrog of Morgoth lo dice Gandalf. Tell me where is Gandalf. Tell me where is Gandalf, for I must desire to speak with him. Nessuno però glielo dice, perché anche Anna mi è più un cazzo di speak with him. Questo più o meno è la situazione. Oh, c'è il denaro, c'è il coso. Rimuovere. Più o meno l'avventura sarà ambientata nell'Eriador, che è la parte occidentale della Terra di Mezzo, che va da sì, Monti Grigi. Okay. Partendo da occidente va dall'Indon, quello che è l'ultimo regno elfico, diciamo. Da dove poi sono arrivati gli elfi. L'ultimo regno dove c'era stato, era il regno di Gil-galad, l'ultimo re supremo, e arriva fino ai Monti Grigi. Io sono figlio di Gil-galad. Gil-galad non aveva figli. Sauron era tutto. Aveva figli dichiarati. Esatto, vabbè, figlio bastardo di Gil-galad. Gil-galad è tuo zio e Sauron è tuo padre. È un po' come quando scopri che Jon Snow è figlio di Targaryen, qua lo scopri alla fine che sono figli di Gialli. Ok. Spoiler. Ed è l'imperatore di Roma. Sì. E... a nord arriva fino a dove c'era il regno di Angmar, che una volta era Arnor, prendendo Gundabad, il monte. C'hai la cartina? Sì, ho la cartina. No, però tu non ce la puoi fare, io la posso fare. Ma ho anche. No, aspetta, la posso questa cartina. Ah no, scusate, no, canzone sbagliata. Sì, rollò una canna in diretta. No, non ci sta. Mi ha fatto vedere il lenzuolo. Aspetta, la vado a prendere. Prima a pinderla. Però no, ho i file, adesso però finisco il prima a pinderla. Sì, diciamo. Sì. Scusa, se cerco dei wire. La prendiamo alle piante. Se mi dai un secondo te ne metto. La musichina. Devi andare sul casetto. Vai al casetto. Saruman. Pezza, appendiamo quella di stoffa. No. Vabbè, comunque non ce l'ha spiegato, dopo ce l'ha perduta. Vabbè, tutti conoscono il Signore degli Anelli. Lord Master. Lord Master. Io ti chiamerò così. Ah, ma aspetta, posso. Voglio far vedere chi comanda e facciamo un altro ordine da 70 anni. Tiro su Discord. Ancora Fab. Io sì. Non dentro di questa delicatissima acqua. Puoi avere anche un'altra cosa. No. Allora, caricherò il file in The War Ring. Ma avevi già messo la mappa interattiva? No, in realtà sì, tu lo puoi, la puoi condividere. Scusa, ah no, perché tu non sei... No, tu sei collegato del byte. Condivido io diretto, allora la apro e condivido. Sì, esatto, fai diretto. Download. Io sto facendo la scheda. No. Cioè, mi sono sentito nominato. No, è della scheda. Beh, ah no, era del byte. L'ho scaricata. C'hai le tablet? Ce le ha girate due. Le ho girate le tablet. Dove su Discord. Sono tutte nella... Non si può cercare su Discord dal telefono. Sì. Lo so. Febbre del drago. Discord. Secondo me a metà compagnia stasera riusciamo a farlo come personaggio. Ma tanto non li faccio io. No, un paio forse. Un paio. Tre sessioni di prologo, secondo me ci stanno tutte. Poi forse per la sessione di fine anno riusciamo a giocare la prima. Se si vede bene, giusto? Per l'ambientazione. Ma si vede bene. Cazzo vuoi vedere? Devi capire qualcosa. Rar, The Manor, Muners, Mobius, Willow. Qua c'è. No, vedete, dai. Grazie. Sono mappe che abbiamo visto un sacco di volte. Non sul generale. Andò a sud, si spinge più o meno fino alla breccia di Rohan, quindi che include Isengard, e va giù fino alla breccia di Rohan senza entrare nel a Rohan. Tu sei un elfo. E a nord prende Cardun, che era la capitale di Angmar, e poi il monte Gundabad è una cosa più a nord. Per editare la cellulare come si fa? Prendola con un editor PDF. A me mi ha consigliato, esatto, un'app, l'ho scaricata e me lo fa fare. Se vedete ci sono le schede per gli umani, per gli elfi e per gli hobbit sono uguali agli umani e per i nani. Cambiano solo le rune. Sono anche le schede per gli hobbit. I nani. Ah, perché sono dei raccomandati, non so. Comunque da sta partita è difficilissima. Non sembra quasi... Non è piaciuta questa cartina. Perché manca una parte, Vez, solo... Fillamon vuol dire evitabile. Sì, manca Rohan, manca Gondor. Ok, ci sono arrivato adesso. È solo l'Eriador. È solo l'Eriador. C'è scritto Eriador. Prima torno. No, capito. Mezzo, vuoi che... No, perché mi hai fatto scaricare quella del dwarf? Vuoi che prenda fuori il lenzuolo? Così magari... No. Dopo voglio il lenzuolo. Dwarf. Ma il livello di inglese è altissimo. Dwarf. Va bene, siamo nell'Eriador. Cos'è nell'Eriador? Qual è la situazione dell'Eriador nel 1965 della terza era? È un po' una landa selvaggia in cui, vabbè, c'è il Lindon che è l'unica parte sicura. Ci ci ha mandato. E poi è dove erano nel Silmarillion, no? Del Beleriand, quella parte lì. Il Lindon, sì. Il Lindon è la parte più a est del... Sì, cioè a est della contea, scusa, a ovest, no, a est della contea. Per vedere il PDF non te lo fai indicare. Sì, a ovest della contea. A ovest della contea. Che è la parte più a est? Era la parte più est del Beleriand. Ah, ok, sì. Okay. Abbiamo detto 1965. Avevo anche iniziato per fare un titolo in Quenya, suggerimi da Marco, però poi mi sembrava di star studiando latino, quindi ho detto... Se vuoi ce l'ho, lo ritrovati. Già fatte le cose, basta. Però magari qualche titolo di qualche puntata potrà essere... Comunque questa è la situazione, l'Eriador è una terra selvaggia, abbastanza... abbandonata a se stessa, soprattutto da quando il regno degli uomini... del nord è venuto meno dopo la sua distruzione da parte del re degli stregoni. Ci sono appunto, c'è il regno del Lindon, che è da dove gli elfi partono per andare a Valinor, che è l'unico posto veramente sicuro. C'è la contea, che è abbastanza tranquilla. Ah, tu sei un pelopiede, quindi dicevo. E poi in realtà ci sono vari villaggi, un brandicazzo, sparsi. Vari villaggi sparsi e soprattutto molte rovine di quello che fu, fino ad arrivare all'altro centro, diciamo, di calma, che è Rivendell, Gran Bruno. Guardate un brandipene. Ok, che cazzo sono sti due? Ah, scelto coperto. Sì, però c'è la mia mano. Quindi questa è la situazione. Chiede aiuto. Chi vuole iniziare? Marco. Qualcosa. Okay. Allora, intanto possiamo chiarire un attimo le razze. Sì. Ok, le razze sono... Alto elfo. No, cioè di no... Vabbè, sì, va bene. Vai. Vabbè, dico le razze, ognuno di voi dice cosa è. Ah, ci sono gli hobbit. Della contea. Sì, dai. Tra l'altro, Salla, questa la devo dire. Io e te nella vita siamo i bassi e quindi è abbastanza imbarazzante che facciamo anche gli hobbit, però va bene, andiamo avanti. Non ho capito a cosa ti riferisci. No, infatti andiamo avanti. Cosa vuoi dire? Comunque, se volete delle informazioni... Dicendo che io faccio l'alto elfo perché sono molto alto e sbracciato. Gli hobbit raggiungono la maggiore età sui 33 anni, sono alti tra i 60 e i 120 centimetri. 120 centimetri è un po' una misura regola. Oh, hai un anno in più di te, però per il resto... Vestono di solito di colori vivaci, verde e giallo, sono di solito ricci, gioviali, sì, quasi e mangiano 6 pasti al giorno. Tipo, quindi tipo... ha bisogno di... 6 pasti è normale, però. Cioè, due colazioni, due pranzi e due cene. In realtà non è così esagerato. Sì. Ma è finito di parlare dei pasti degli hobbit? Beh, visto i pasti che fanno... Sì, è la quantità di ogni pasto. Poi abbiamo i nani della stirpe di Ligure. I nani. Quindi Marco, sei un nano tu? Sì. Marco, ti sei, cioè, hai quel problema che devi parlare sì, sono un nano perché sono molto basso. No, la sapere se dai, c'è più avanti sullo schermo centrale dove è per... Ok. Non mi vedete? Sì, sì. No, vabbè. Ci sono i nani, appunto, che sono localizzati adesso. Beh, è tornato il regno della montagna solitaria, quindi c'è Dain, Piediferro, il re sotto la montagna. E ci sono gli Ered Luin, i Monti Azzurri, che delimitano il Lindon. Questi sono i due regni principali. Tu vieni da... La mia famiglia è originaria di Bergost, quindi ovest-ovest, ma io sono nato a Erebor. Ok, quindi il tuo re è Dain, abbiamo detto. Madonna, Dain detto anche blocco elefanti. Difesa no, di nove. Io mi sento appartenente a Bergost. Più che a Erebor. Sì, vabbè, non esiste più da migliaia d'anni. Dain difesa 9, quando c'erano le mura di Minas Tirith, difesa 8. Sì, si capiva. Infatti è abbastanza sbagliato. Poi ci sono gli umani. Gli umani. Nessuno di noi è umano, tra l'altro. Io? No, due. Ci sono tre possibili scelte. Vabbè, per l'uomo umani. Di Brea sono quelli. Quei no, è vero, siamo più di uno. Ci sono tre possibili scelte per gli umani. Gli uomini di Brea, il famoso villaggio prima della contea. Quello in cui viene spianato il tizio dalla porta. Quello in cui i Nazgûl fanno il primo tentativo di attacco. Signor Zerbin. E dove soprattutto succede un sacco di cose, perché Gandalf incontra Thorin, poi gli Hobbit in fuga incontrano Aragorn, esatto. Sì, Brea è spettacolo. I cuscini vengono pugnalati. È vero. Sì, ma le cose succedono anche dalle altre parti, solo che Tolkien non le scrive perché è un po' maschi. Ce le abbiamo tutte. Perché serve a me. Ma mandala a te, perché devi mandare a me? Non ti lamentare che interrompi il flusso. Sì, esatto. Cioè, brandi pene. Dopo gli uomini di Brea, ci sono gli uomini del lago o di Dale, che sono quelli della città. No, io sono adesso. Che sono quelli della città ricostruita di Dale vicino alla montagna solitaria. Una volta che Smaug è stato sconfitto. E nessuno. Per Rebar, nessuno l'ha fatto. Quindi l'ultima stirpe degli uomini è quella discendente dai Númenóreani, cioè i Dúnedain, gli ultimi eredi del regno del nord. E tu capi tra tutti i giovani scelti pezzenti di Bre. Che sono... È la mia alternativa, quindi sì, capisci già che è inutile da questo. Sono pochi, vivono una vita di sostanzialmente di guerra, perché come loro compito, hanno questo compito autoimposto di mantenere sicure le terre dell'Eriador, quindi passano la loro vita a combattere. È molto da mezzo. Autoimporsi di essere povero e continuare a combattere. hanno il vantaggio che sono alleati comunque di Elrond, spesso trovano... Beh, siamo amici. Beh, io conosco Aragorn magari, però. Sì, tutta storia. Sì. Sono... Che è raccomandato, cos'è? Esatto. L'hai detta tipo, mio fratello. Sei figlio di Aragorn. Spesso trovano rifugio, aiuto dal Gran Burrone e dagli elfi. Ho rifugio? Il Gran Burrone? Tu sei del Lindo. Io sono 34, figli gigante. Quindi faccio quel cazzo che mi paga. Beh, sei andato già adultissimo. Cioè, sì, per quanto i Númenóreani vivano più a lungo, sì. Poi, dopo, passiamo agli elfi. Gli elfi sarebbero... ci sarebbero nel manuale base solo i Sindar, gli elfi del Lindon, cioè quelli che non sono andati a Valinor. Esatto. Ma nell'espansione di Gran Burrone ci sono ovviamente gli elfi Noldor, che sono gli alti elfi dell'Ovest, che stanno principalmente a Gran Burrone, ma in realtà anche nel Lindon potrebbero esserci. Dove danno rifugio, che è l'ultimo asilo ai pezzenti di Númenor. Esatto. Dove si radunano sotto Mastro Elrond, che ha l'anello con cui allevia il peso che gli elfi sentono di stare nella terra di mezzo. Poveri. Quindi io potrei chiedere a mio zio l'anello e già a livello 1. Barato. Ecco che sono forte. Sì. Elves of Lindon. Yes, it is elves, said Frodo. One can meet them sometimes in the woody hand. Come funziona il gioco? Brevissimamente. Voi avete tre caratteristiche. Oh. Che vi descrivono. Queste tre caratteristiche poi le sceglierete, ma quello che... Le tre caratteristiche determinano alcune cose: i vostri punti ferita, quanto carico potete trasportare, quanti punti speranza avete, con punti speranza potete fare cose, non poi vedremo, e determinano la difficoltà, le soglie di difficoltà per le vostre azioni. Infatti non sono io che decido la soglia di difficoltà o quanto è difficile fare una cosa, ma voi tirate contro un valore fisso. Che è, si calcola prendendo 20 e sottraendo il valore della vostra caratteristica. Tipo, avete forza 6. La soglia di difficoltà è 14. Okay. E resta quella. Potete abbassarla. Cioè, qualunque cosa tu fai sulla forza, resta esatto, quella. È quello. Che tu cerchi di sollevare Minas Tirith. O di schiacciare una fornita. No. Sì, la soglia di difficoltà è 14, ma se tu cerchi di sollevare una stiera ti dirò non lo puoi fare. Ah, ho fatto 15! No, ovviamente per fare cose che richiedono una prova. Che richiedono una prova. Che è la che, esatto, sia la nostra portata. Sì. Cioè, sì. Tipo, decidi di lanciare una freccia nell'occhio di Sauron. Quello no. Puoi farlo. Puoi anche riuscirci. Poi Sauron magari... Mio zio, non sì, lo le solite liti in famiglia. Scusami zio, non l'ho fatto apposta. Comunque quello che... Perché così è rossato. Come... Che dadi si tirano? Si tira un di 12, che lo tirerete sempre. Ma tu hai preso quello speciale? Sì. Fai vedere. Questi sono quelli della prima edizione, o anche quelli della seconda, ma non mi andavi a aprire la scatola, quindi ho portato solo quelli della prima. Sono uguali, eh. Comunque, nella per no, fa ridere che è una delle poche cose che ho letto, ti dice come usare i dadi normali se non vuoi spendere per questi. Vabbè, in realtà è abbastanza... Beh, male. Anche cosa? Beh, è poco commerciale. Vabbè, però... E quindi online sta... come facciamo? Tirate il dado, ma tanto è facile. Allora, sì, vi lo spiego. Sono un di 12 e dei di 6. Di 12 lo tirate sempre. È il fit dice, viene chiamato. Allora, i numeri da 1 a 10 sono normali, cioè contano come... Come, come lo tradurresti, per pulizia? Il dado piede, no, come scrivo? Dado no, va... Fit. Talento. Il talento, sì. Della capacità, della... Sì. Potete farlo meglio, va bene. Ci lavoriamo. Diciamo dado da 12. Va bene. E quello lo tirate appunto sempre. Per una di... Sempre, ragazzi, non puoi avere pause. No, ma sono più rune. È una sì, cosa sì, complicata. L'1 al 10 sono numeri. Ragazzi, non puoi guardarti. No, no, perché c'è quasi un'altra. Sì, allora, dall'1 al 10 sono numeri. E quello vale il valore numerico. L'11 è l'occhio di Sauron. Ma qui ce n'è una terza. Sì, cioè. Ah, no, forse, cinque, forse, forse assomiglia. Ma è cosa di Sauron. 2. L'altro sono numeri arabi. Oh mio Dio! L'11, no, va bene, l'11 è, la, è l'occhio di Sauron, che significa zero. Fallimento automatico. No, significa zero. Significa fallimento automatico solo in determinate circostanze. Cioè, se i vostri punti ombra sono pari ai vostri punti speranza, ma lo vedremo. Okay. E avete quella, una condizione. Questo. Il 12, invece, è la runa di Gandalf. E quello è successo automatico. Ah, ok. Poi ovviamente la maggior parte delle volte tirerete altri dadi, che sono i dadi da 6, che sono i vostri dadi abilità. Quindi gli unici dadi che abbiamo sono 6 e 12. Sì. Ok, non ci sono altre robe. I dadi abilità contano, il numero che esce è quello. Voi sommate tutto il vostro pool per fare la soglia. Cosa succede nei dadi da 6? I dadi da 6, se vedete nel 6... c'è una runa sopra, sì. Perché ogni 6 che fate è un successo di grado più elevato e quindi potete fare cose. Ok. cancellare magari insuccessi di un vostro alleato oppure ottenere un successo di grado più alto. Quindi questa cosa dei successi è un po' simile a Star Wars. Cioè, te la somiglia. Cioè, tu tiri, fai il tuo totale, intanto vedi se la tua azione è andata a buon fine o no. Sì. Poi, in più, se hai delle rune sul 6, puoi ulteriormente fare altre cose. Cioè, sono separate le due cose. Una è il totale dell'azione, sì, sì, una sì. sono quei successi che puoi usare. Successi però sono dei plus. Esatto. Sì. Che tu magari non riesci nella tua azione, ma puoi avere uno di quei successi, tecnicamente. No, fallisci. Cioè, anche se fai 6 con un dado, ma non fai il numero giusto, fallisci comunque, non hai il vantaggio. Ma non hai un. Non puoi usare. Mentre la runa di Gandalf, anche se non arrivi al numero. No, dico, fallisci la tua azione, sì. però non ti può. Non può aiutare. No, è fallito. Punto. Non ti può aiutare. Aiutano se sei successo, hai okay. gradi di successo okay. in più. Se fallisci, fallisci. Ok. Pensavo li potessi usare in maniera separata. Non è questa cosa. No, vabbè. Cioè, Star Wars anche se succavi il successo. Di 6 sono i vostri dadi abilità. Voi avete delle abilità, sia di combattimento sia generali. In base a quanti gradi abbiamo e il numero di 6 che quanti teniamo. Pallini avete in abilità e il numero di 6. E se quelli si aggiungono e basta al totale. Sì. Oh, si è fatto male perché purtroppo si vede. Infatti io ho sempre... non credo, però... Però potresti di romperli. Però potresti metterli sotto. Hai sbagliato campagna, gatta. Sì, esatto. No, sì, ci sta sotto. È larghissimo. Vai. Vabbè, ah, questa gatta sta provando l'elmo di Boba Fett. Questo dai che ci sta. È larghissimo. Quindi tu... Sì, hai la classe di difficoltà. La sua difficoltà è sempre uguale, però... aumentando l'abilità aumenti il numero di dadi che tiri e quindi faciliti la reazione. Esatto. Poi allora le caratteristiche sono quelle alla creazione, non potete modificarle. Okay. Potete abbassare la soglia di difficoltà, ci sono dei talenti che ti permettono di abbassarla di uno quando, okay. quando li prendi. Come si determinano le caratteristiche? Scegliendole tra 6 quando creiamo un personaggio. Ogni razza ha 6 opzioni e scegli. Che si variano poi di 1, 2 punti. Cioè. Le caratteristiche sono forza, cuore e saggezza. Volontà più che altro. Wits. Come traduci wits? Intuito. Sì. Acumino. Genio. Bello. La forza, è abbastanza. Cioè, la caratteristica fisica. Caratteristica fisica. Quindi atletica e tutte quelle di combattimento, quindi sia che sia arco sia che sia spada forza. Hope ti serve scusa Earth ti serve sì è pieno di Per rincuorare gli avversari, cioè gli avversari, i tuoi compagni, curare e resistere a determinate forme di corruzione. E Wits ti serve per intuito, conoscenza, esplorare. Sì, e anche questo cioè, per resistere ad alcune forme di corruzione. Per capire bene le caratteristiche. E la volontà, come... più o meno. Più o meno, ma in realtà c'è anche un po' di... Sì, di saggezza. Sì, perché... vabbè, tutto quello che è mentale, dai. Sì, non, più o meno sì. La volontà, secondo me, è più quella al centro. Perché comunque rincuori i compagni. Ma è anche carisma quello. Sì, carisma. Oltre sì. Perché Earth sì. più la tua capacità di resistere alle avversità. La costituzione. No, non è la no, non in maniera fisica. È la capacità di resistere, di non abbattersi di fronte. La forza di volontà. Ma è ancora più facile, Arci, ti interessa sullo stretto. Ma in realtà comunque per capire bene cosa, cosa sono le caratteristiche basta guardare le abilità. Le magari è un'altra roba. Che danno più l'idea facilmente. Però non persuadere su Wiz, non è su Earth. Sì. Comunque adesso, quando iniziamo a fare più un personaggio, vediamo. Vuoi partire da uno? E poi ci sono le abilità. Le abilità sono quelle lì in generale, bla bla, sono abbastanza ovvie. Song? Cosa vuol dire bla bla bla? Cosa ed è in forza? Cioè... No, song non... difficilmente sarà in forza. Song è strength. Sì. Sì. Per cantare forte di sound. Ah, allora è in forza. Vabbè. Ok. Non mi ricordo il numero, ragazzi. C'è anche Riddle, non in fondo, non però sarà in mezzo. Sei tu, eh? Roba tua. Gli uomini di Brea sono molto forti. Non c'era lanciare le palle di fuoco. Non è possibile lanciare palle di fuoco. Vabbè, puoi prendere una palla di un qualche elemento infiammabile, dargli fuoco e tirarla. Quello lo puoi fare. Una palla del brandopene. Va bene, quindi puoi cominciare da qualcuno, così magari. Sì, ma che direi che in generale più o meno abbiamo parlato. Bisogna un attimo. Un'altra cosa particolare è che durante la creazione voi scegliete dei tratti che vi descrivono il vostro personaggio. Se voi fate una prova usando quei tratti, avete un bonus. Che nel caso specifico, sì. Se tu spendi. Che tipo di tratti sono? Sono descrizioni tipo gioviale oppure conoscenza del nemico. Esatto. Perfetto. Ottimo. No. Non è che tu lo devi avere e che questo ti dà un bonus. Se tu fai una prova sfruttando quel tratto. Immortale. Se tu fai una prova sfruttando quel tratto che descrive il tuo personaggio. Tipo, sì. Provo a lanciarmi due gel dalle mura, uso immortale, a terra in piedi. Sì, hai un bonus. Questo bonus in cosa consiste? Che se tu spendi un punto speranza, che è una cosa che vi aiuta, tu spendendola avete dei bonus, al posto di aggiungere un dado, ne aggiungi due alla prova. Una roba di merda. Gli elfi? Se spendono un punto speranza... Hanno un successo magico indipendentemente da qualunque cosa succeda. Madonna, sono già come... E non si sa come, non si sa perché. Cioè, se io uso un punto speranza, è successo per forza in quella cosa, sì, che è faccio. È un successo magico. È un successo ovviamente a senza gradi aggiuntivi. Però più speranza spendi, più va verso l'ombra. Ma quella cosa... Questo ho capito che sono abbonato all'ombra. In Star Wars abbiamo già visto questa scena. Nonostante si sforzasse, era sempre più verso il lato chiaro. Comunque, a parte tutto, in questo gioco, Salla era più sul lato oscuro. Salla magari uccideva 10 bambini, tirarcela 10 e risultava. Tu invece uccidevi più milioni di persone. Esatto. No, l'ho fatto per equilibrare. In questo gioco comportarsi male ha delle conseguenze meccaniche. Definisci male, esatto. Come giochiamo di solito. Una campagna cortissima. Perché è l'unica campagna in cui dobbiamo ascoltare Vez, questo. Sì. Perché approfittarsi degli altri, essere troppo avari, essere crudeli, ti dà punti ombra. Variazioni mai giocato in generale. Sì. Prendendo punti ombra, rischi di corromperti sempre di più. Appunto, ogni vocazione ha detto la parola chiave: rischi. No, poi resisti. Cioè, ogni vocazione ha 4 step di corruzione. Dividere l'ombre. Raggiunto un quarto, il personaggio è fuori dal gioco. Che nel caso di Hobbit, umani e nani è morte brutta. Nel caso mio. In caso degli elfi vanno a Valinor. Nel caso degli elfi è un successo. Sono finito la zona d'ombra. Tieni 20.000 monetari in più. Cosa? Sì, ma in vacanza in paradiso. Vanno a Valinor, sì. E boh, questo è quanto. Magari ti chiedo se puoi fare un esempio di turno. Gentile bambino. Ci rendiamo conto un po' della meccanica. Come si chiama? Perché mi pare di capire che è molto diverso, no? Come diciamo di qua. E il turno di fatto c'è nel combattimento e basta. Ok, il resto è liberamente. Il resto è libero. Okay. E il combattimento lo vedrai quando combattiamo. Meglio vederlo direttamente. Perché funziona che ognuno di voi sceglie una posizione in cui stare tra quelle disponibili. Ok. Sono posizione avanzata che attacchi ma esponendoti a rischio, diciamo posizione normale in cui attacchi ma non hai bonus o malus particolari, arretrata che ti difendi, ok, e retroguardia che stai indietro e spari. Per poter stare in retroguardia devono esserci almeno 2 compagni in prima fila che combattono corpo a corpo, poi dipende anche dal numero degli avversari. Sono abbonato alla retroguardia. non c'è un'iniziativa. Se i giocatori sono di più, decidono i giocatori. Cioè, decidono sempre i giocatori il loro turno. Però se sono di più i giocatori, vanno prima i giocatori. Se sono pari, vanno prima i giocatori. Se sono di più gli avversari. Se sono di più gli avversari, vanno prima gli avversari. Ah, ok. E ci sono le salve d'apertura come l'ex arcana. E c'è la storia dell'ingombro più o meno come l'ex arcana. Però il combattimento è diverso. Non è che tirate insieme si determina il vincitore. È più come tu tiri e l'altro tira. No. Ok. Quindi più vieni ferito, più sei ingombrato. Sì, i vostri punti ferita sono più che altro la vostra capacità di resistere fisicamente. Quando arrivate a zero svenite, ma non rischiate mai la morte, perdendo la vostra endurance, si chiama. Ok. Voi rischiate la morte se venite feriti. Le ferite sono due. Cioè voi potete essere feriti due volte, massimo. E è difficile ferire in realtà. Cioè è una cosa particolare. Perché deve fare un tiro particolare, l'avversario deve superare la vostra resistenza data dall'armatura. Che qui l'armatura non vi dà un bonus, cioè non dà un malus all'avversario per colpirvi. L'armatura, in caso che vi ferisca, vi dà dei dadi, che c'è una prova per resistere, se no venite feriti. Okay. E se venite feriti, tirate la gravità dell'infortunio, poi la seconda, e ci sono... o morite. Mm-hmm. Se avete sfide, morite. Se no, avete una ferita che può andare da 1 a 10 giorni di... prognosi. Ok. Non c'è un modo per accorciare la cosa. Cioè, in realtà uno può guarire, se ad esempio uno è morente, deve ricevere una cura entro breve, può fare una cura e basta. E basta? Ma nel senso, se uno di voi è morente, uno va per curarlo e la fallisce, uno non può fare nulla. Ah, ok. Ah, cacchio. È uno. Perché simula che tu hai provato a curarlo... Non sei riuscito, ma non lo scopri subito. Non vedi certo. Tutto il tempo che certo. Il tuo paziente è morto. Tu la tua cura l'hai fatta, ma non puoi più. Certo. I punti endurance li recuperate con i riposi. Okay. Ne avete uno breve durante la giornata, insomma, la sera. Poi una cosa particolare è la divisione della struttura di gioco. C'è la fase di avventura che si suddivide. Nel classico esplorare, combattere, andare in giro, interagire con le persone, ma nella fase avventura c'è una fase a sé stante che è la fase di viaggio. Quando tu vai da un punto A a un punto B, che devi conoscere sulla mappa, voi mi fate il percorso che volete fare sulla mappa, me lo tracciate più o meno, io vedo nella mappa del lore master dove passate, perché ci sono delle caselle, ci sono dei terreni più pericolosi, degli altri meno pericolosi, alcuni sicuri, altri molto pericolosi, e a seconda è quello che poi ognuno deve prendere almeno un ruolo tra 3 o 4, più o meno come Dungeon World, quelli classici, cioè, durante il viaggio uno un ruolo tipo esatto, tu le provviste, esatto. Prova, a seconda dei risultati succedono cose, ci sono secondo i risultati combinati al tipo di terreno che è stato attraversato. E questa comunque è tutta fase dell'avventura. Poi c'è la fase della compagnia, che è la fase di riposo. Di solito avviene in un luogo sicuro, che di solito può essere un luogo che la compagnia elegge come suo rifugio. Uno a casa. Dove? La casa delle vacanze di Arci. Quando c'è il downtime della compagnia, voi spendete i punti esperienza per acquistare abilità e altro. Quindi i punti quelli che metto lì è un po' tipo Urban Heroes. Compri delle cose con sì, i punti. Sì, compri delle cose e li spendi. Sì. Ok. durante appunto questo downtime recuperate, potete anche perdere punti ombra accumulati, per quanto pochi, recuperare speranza. E non mi ricordo se tutti, però c'è un down, c'è un, questo non me lo ricordo esattamente, però se è solo nel downtime quello grosso, che c'è, cioè, diciamo, la festa di Yule, che sarebbe l'inverno, in cui tendenzialmente si sospende, cioè la gente non va in giro a cercare di morire, in cui qui potete fare anche attività più lunghe, tipo potete decidere di allevare un erede, consultarvi col vostro... Se fosse un maiale. No, voi avete un erede che addestrate o crescete. Erede? Nel senso, è un periodo lungo di tempo, sì, in cui voi fate altro, non siete all'avventura, siete a casa. Cambiano varie cose. Potete forgiare armi o cose se avete. Sì, magari poi dopo degli anni ci rivediamo e diciamo, ecco, sì, è il momento. Lui è seppia. Beh, magari l'erede può sostituirvi o prendere il vostro posto qualora voi moriate o diventate troppo vecchi. Nel caso. Oppure voi non siate i bambini e dobbiate andare a Valinor per un periodo in cui non siate io. Oppure potete incontrare il vostro patrono per avere consigli, suggerimenti, cose il varie. Patrono è unico della compagnia, vero? Sarebbe unico della compagnia. Possiamo vedere poi. Sì, dai, se lo scegliamo. Peso. Quindi, come prima cosa, le razze. Vai. Dai, quindi, diciamo esatto che ognuno chi è? Hobbit messaggero. Ecco. Vabbè, quantomeno Hobbit. Poi quindi vedremo. Hobbit sono... Sceo e Salla. Io, quindi abbiamo due hobby. Marco è un nano, giusto? Yes. Katta è umano di Brea. Mm-hmm. Io sono umano Ramingo Ranger. Dunedain è chiamato, ok? Però sono Ramingo di fatto. Sì. Ranger of the North c'è scritto. E Arci e è Barato elfo, campione Barato supremo, figlio di Gilgalad, power player, figlio di Gilgalad, nipote di Elrond e di Sauron, cavalcatore di elefanti, stupratore di Nazgûl. Arci cavalca una bestia alata. Allora, che si posa sull'olifante. Marco nano prova a uccidere il nemico. Non ci riesci, così più speranza, ci riesci bene. Ho detto che non ci riesci. Sono troppi. Quindi, di fatto la razza più numerosa è quella degli hobbit nella tua compagnia. Sei contento o no? Beh, sono gli umani, se le pari. Ma sono diversi. Uno, due, umani. Ma è diverso. Poi in realtà anche gli hobbit sono esseri umani, però. No. Tipo sembrava uno non sono razzista, ma però alla fine dai, anche loro fanno sono parte dell'umanità, come hobby. Sono elfi, umani e nani, questi sono i tre stili, che poi in realtà i nani sono adottati, però non puoi dirlo così. No, vabbè, non apriamo capito a livello vabbè, cosa vuol dire? Sono gli orchi e sono elfi. Sì, ma non vanno. Ah, quindi se io sono il figlio di Andor lo devo dire qua in questo di Addar, lo devo dire qua in questa fase. Sì, se vuoi. Sono il figlio di Addar. Ok. L'ultimo degli Uruk. Ma sei un hobbit. Ma sei un hobbit. Ah, no, dovevi rispondere. Ah, giusto, allora sono nero. E non può avermi avuto come un hobbit. Ah giusto, sì, se è nero può farlo, certo. Non risponderò a questa domanda. Comunque, tu te l'hai visto? Non spoiler. Perché non ci sono hobbit asiatici? Gli chiedono, ma coreano sarebbe perfetto. Sembra proprio di vedere. Ok. Making of di... Adesso andiamo con... No, sono la quarta puntata. Ah, avevo già visto questa scena. Va bene, le razze abbiamo capito. No, anzi. La piattaforma esiste per avere altre... Facciamo le razze, giustamente. Vedere Amazon con... Ognuno di voi adesso sceglierà le caratteristiche. Oh, bene. L'esperto di Bibbia. Qual è però il punto massimo? Quali sono i punteggi? Andiamo in ordine. Però aspetta, non è più importante scegliere. No, beh, no, andiamo in ordine. La prima cosa è scegliere le caratteristiche e gli attributi della cultura eroica. Quindi la cultura eroica è la prima cosa più importante. Sì, ma l'avete scelta. Nano, umano. Sì. Gli attributi, invece di tirare 4 di 6, vediamo cosa più importante. Quella è la cultura eroica. No, quella è la vocazione. No. Ah, ok. Allora, partendo da la calling, nessuno fa i barding. Quella che tu dici, la calling, che è la i nani. I nani, vabbè, tu Marco l'hai già scelto. Smetti di dire i nani, così ogni volta noi cantiamo. Marco, io ho scelto un nano con cacciatore di tesori. No, non è quella la domanda che tu fai. Calciatore di tesori, sì. Gli attributi. Ogni volta che ne vede uno di certi calci. Non sono stemmonetta di me. Quali attributi hai scelto? Forza 7, cuore 3, intelletto 4. Ok, wits. Okay. Va bene. Ah, non vi ho detto che... ma 7, 4, 3, cioè a culo. No, cioè ogni razza ha una tabella con 6 opzioni, opzioni. E io vi dico. Come funziona? E dove si trova questa tabella? Ah, aspettate un secondo. Cosa hai detto, Sal? Dove la troviamo questa tabella? Cioè, dici tu? Nel manuale base, a pagina 30 seguenti. Io qua ce l'ho. Allora, aspetta, vuoi che guardi gli Hobbit? Che sono dopo. No, aspetta, andiamo in ordine però, per favore. Perché vi devo spiegare delle altre cose. Ok. Allora, ogni razza ha una benedizione culturale. Uno o più benedizioni culturali che sono delle capacità tipiche della razza. Ad esempio, i nani hanno Naugrim che gli permette di considerare l'ingombro la metà di tutte le cose che hanno la metà, però non possono usare alcuni tipi di armi perché sono basse. Quindi Marco, tu sei il muro del soma della compagnia. È il cultural blessing quello che. Sì. Ma in realtà porto solo le mie cose. Se questo dici tu. E in più i nani hanno che sono no, hanno queste due cose. Una che gli dimezza load ready, cioè il carico, e l'altra che gli dice che non possono usare grandi archi, picche e scudi grandi. E poi ogni cosa ha uno standard di vita, cioè di come uno vive, stile stile di vita. Nel caso dei nani è prospero perché sono ricchi come una merda. Cioè, and got the money. Esatto. Tu però hai scelto il calciatore di tesori che è quello che hai ragione. Quindi, vabbè, tu Marco, le caratteristiche te le stai mettendo di per te con anche le skills. Sì, ma devo scegliere quelle da livellare ancora, non ho deciso perché aspettavo di vedere cosa fanno gli altri. Lui sta già livellando, vabbè. Non abbiamo ancora cominciato a giocare, lui sta già livellando. Il cugino mi chiede, Arci, ma che mangia il Mac? Che succede? Un giorno come ti hanno sbagliato un panino. Boh, vedo che il signor Nelly non le è piaciuto. Salutiamo i miei cugini. Ciao cugini, è vero. Cosa ne piace? Il signore di Anelli, gravissimo. Ma chi non è piaciuto? La mia cugina. Ma quale? Nella serie? No, ma la vita in generale. No, ma non capisce niente. La serie tipo, oh sì, è vero, neanche a me. Va bene. Bene. Io per esempio ho... Forse volete Kings sapere cos'è Fame. la cosa succede quando avete una skill favorita. Ed Heroic Culture, stiamo parlando di skill, cioè non stiamo parlando di attributi, stiamo parlando di skill, quindi le skill sono dopo quelle 18. Io ho una domanda, in base alla classe ci sarà una skill preferita? No, la classe ti aggiunge delle skill preferite da scegliere. Perché infatti quello secondo me è però di base scusa, una caratteristica preferita. No, la caratteristica non ce l'hai preferita, la caratteristica è quella. No, quello che dice Salla è cioè in base a quello che scelgo di essere, ci saranno delle cose che ha più senso che io abbia alte, questo vuoi dire? Beh, è chiaro che se tu fai un personaggio forte in forza, non fai tecnicamente cioè, no. Ah, quello che fa la vocazione è solo darti delle spalle. Oh no, questo mi sa di Lex Arcana. Ha detto però sì, tecnicamente no. Esatto. E la vocazione ti dà solo delle... ti definisce due skill favorite, che però sono abilità, non sono combattere. È, che ne so, il campione ha... e atletica, sì, ce ne so, intimidire, di due. Te ne dà tre e scegli due. Devi sceglierne due di tre. Ah, okay. Oppure il capitano a battaglia, sì, incoraggiare, per dire, queste cose qua. E appena trovo cosa fanno le skill favorite, che non mi ricordo. Comunque le skill però sono proprio le abilità, quelle sono 18 abilità. Lì, sì, esatto, sì. Che sono influenzate dall'attributo? Sì. No. A sentire. L'attributo determina solo la soglia di difficoltà. Tipo, okay, l'esempio che aveva fatto prima sulla forza. Tu avrai una forza, okay, sei... quello mi determina la cosa. E in base, allora, a sì, quanto io ho quella skill, più è la... il numero di D6. Esattamente, sì, okay. Più aumenti l'abilità, più dadi tiri. Quindi, okay, è più facile che superi la tua soglia di difficoltà. Sì, ho capito, sì. Quindi in realtà uno può pensare di essere, se vogliamo, equilibrato, in realtà. Se vogliamo, esatto, se vogliamo guardarla solo in termini di punteggio, dire io qui ho già una classe di difficoltà bassa, prendo le abilità dove sono una classe di difficoltà alta. Ah, e qui scelgo che caschi nella, questo non è assolutamente min-maxer. No, non ho detto min-maxare io. Ho detto sì. Infatti mi ha detto che è esattamente l'opposto. Esatto, dico. Però non... cioè, è il solito discorso, perché poi a livello meccanico, cioè, la compagnia in realtà è più forte quando ha dei ruoli precisi. Sì, chiaro. Sul mio maxer puoi contarci. Tu hai strength 7. No, non c'è 10-0-0. Puoi stare anche... se tu prendi dei più, vabbè, io sono i miei. Sta anche a ruolare, nel senso, io non prenderò... se il borso in Aldorant... battaglia, cioè... se non ce l'hai, ah, okay, hai questo. Quando hai questo, cosa vuol dire favorita? In che senso? Allora, questo hai 6. Wits sei sempre alto. Cos'è? Ti chiedo una domanda, Giulio. Gli elfi in Noldor si basano sugli attributi dei del Lindon? No, non loro. Ah, che però qua non c'è. No, ce li ho io, non sono nel manuale base. Ok. Quindi cos'è, no, il roll 1356? Che se vuoi puoi tirare a caso. Ah, ok. No. Ma non guardare queste, perché ti ho detto che in Noldor hanno altre cose. Quindi dipende se tu vuoi fare un normale elfo oppure quello barato. Quello barato? Ok. Non ti fai scelta. Sì, no, posta nei modi più giusti, direi. Beh, sì, io non voglio che stia lì troppo a pensare. Allora. Posso, secondo me... io ho scelto l'ultimo tiro. Ok. Giulio, mi dici un attimo quindi dove trovi i miei? 266. Li trovi qua, aspetta un attimo. Scusa, posso... se noi uno alla volta costruiamo passo passo il personaggio, secondo me snelliamo. No, secondo me ci sta che ci spieghi le cose, ma secondo me è più però tipo Marco che ha già praticamente fatto la scheda. No, vabbè, facciamo tutte le fasi insieme. Sì, esatto. È che volevo dire cosa facevano le skill favorite, però non lo trovo. Cioè, immagino che sia il tiro favorito, quindi voi tirate 2 di 12 e scegliete il migliore. Te lo cerco. Tenete il migliore. È il vantaggio. Scusami. Sì, è tipo avere il vantaggio. Heroic culture. Forse la prossima volta devo prendere lo schermo del master. Andiamo a casa. C'è il riassunto lì? Sì, ovviamente. Ce l'hai in PDF magari. Skill and combat proficiency. Rappresentano quelle abilità. Starter set rule. Vediamo se nel bignamino c'è. Cioè. Distinctive features è questo? No, favorite skills. Che sono nelle carriere, nelle cose. No, in generale sono le vostre abilità favorite. Dovrebbe essere che tirate due volte il D12 e tenete il migliore. Favored rolls? No, favored roll. Okay. Sì, dovrebbe essere quello. No, favored roll happen when a play hero possess a specific affinity for a task. Ah, okay. Sì, quella. When making a favorite roll, players roll 2 feed dice instead of 1. Esatto, keeping the best result among the 2. Esatto. le vostre caratteristiche. Ok, quindi tiri il D12, 2 di 12 e prendi il migliore. Ok. Però ci sono anche le ill favorite roles. Sì, vabbè, ma quello è a seconda delle circostanze. Potete when averlo. The hero is suffering from some limitation. Ok. Vabbè, è come il vantaggio e lo svantaggio. E prendi lo, il peggiore, ok. Ora ti dico le due arci. Arci. Leggimi un attimo la più sbilanciata con i numeri. Direi 2, 6, 6. 2, 6. Vabbè, guarda, non c'è un 7 per noi. Sì, 7 in forza lui vuole. Lui ha 626, ma Cultural Blessing è Elven Wise, che può aggiungere un più 1. È una caratteristica. No, aspetta, questa è un'altra cosa. Io ce l'ho più 1, un attributo. Ma dove l'hai scritto? Aspetta. Non è che ce l'abbiamo tutti. Ah, sì, no, qua. No, ce l'hai tu e lui. E lui. Solo che lui c'ha in più, oltre all'attributo in più, c'ha i Magical Success Daily. Sì, sì, sì. Tu hai come Cultural Blessing, Arci. Hai Elven Wise. Giraglielo queste cose qua se ce le hai. Aspetta. Sì, ma tanto dove segnare sulla schiena. Eh sì, ma dove è Arci? Elven. Elven Wise. Elven Wise. Esatto. Quando non sei affaticato, sì, puoi, vabbè, spendere un punto di speranza e avere un successo magico su uno skill roll. E in più aggiungi uno a un attributo a tua scelta. Adesso. Sì. E però un attimo solo. I punti speranza sono basati sull'Earth o sul Wits? I punti speranza sono basati sull'Earth. Non puoi aver tutto. Ok. Dammi un attimo. Uno... Cioè, sono altri con strength 6, però mi sa. Tu e 6 di strength. Ah no, alzami anche l'Earth. Wits cos'è che aveva pure? Allora, tu però hai... Scusa, forza tiro le mazzate. Con Earth mi scelgo quando avere successi. Wiz, ce lo so, sono nelle immondizie. Wiz però è... No, per l'Earth... O è 7 o 6. Il minimo che puoi avere è 5. Ma se hai 5 Wiz, hai 4 in Earth e 5 in forza. Ma perché? Ok. Non sei min-max così. Boh, ha comunque tanto Earth e puoi mettere 6 in forza. È perché l'elfo è sbagliato per min-maxare. Devi fare l'Hobbit che può avere 2, 7, 5. Appena scelto, cioè. Appena scelto, bravo. Beh, sì, a forza. No, dimmi un attimo, Wiz, dimmi Wiz cos'era? Cosa c'era, Wiz? No, aspetta, li leggiamo. L'elfo è barato per altre cose. Wiz ti dà il punteggio di parata, cioè quanto è difficile colpirti. Ok. E ti dà la. Ti determina la resistenza a alcuni tipi di paura e alcune abilità, tipo conoscenze. Ok, sassolo più basso che c'è? 5. Show, tu cosa pensavi di fare come Hobbit? Che non ho capito. Messaggero. Le parate, okay. Io che sono con l'arco, mi fai un cazzo. Tu sei con l'arco? Se vai con forza. Aspetta. Fai la di Kerr. Cioè, forza abbiamo anche con l'arco. No? In realtà gli alti elfi hanno come combat proficiency. Tu vai. Spada o picca? Sì, cioè te non vado di spada. Comunque. Cioè, te non sei un Legolas che fa 32-256. Cioè, tu sei uno un gigante che spara lo spadone. Sì, tu conta che tu sei una roba alta dall'1,90 a in su fino ai 2,20. Ma sei alto elfo, ce n'ha un motivo. Anche di più in realtà, però. Minchia. Minchia, tu sei alto. Sì. Galadriel sarebbe 1,98. Vabbè, minchia. Allora. Anche nella serie. Quella cinna. Sempre nella serie. Vabbè, dai, giù l'ora. Vabbè, ma deve crescere, manca mille anni. Vedi che centimetri prende. Ok. Faccio 6-2-6. Dai, così prendo delle vangate e basta. Vabbè, puoi fare... Guarda che... Cioè, nel senso... se fai 6, no, se fai 5, 4, 5, aggiungi 1 dove vuoi tu, probabilmente in forza, e fai 6, 4, 5, non meno. Ranger of the North. A meno che tu non voglia proprio 7 in forza, allora. No, no, no. Io se voglio posso essere bene, super... Bene, 6, 4, 5. The Rise Stats cosa vuol dire? A meno che non lo fa... Scusi, quindi se uno vuole farlo un po' più tank, mette Wits più alta, tendenzialmente. Sì, aumenta il perro. Sì, aumenta il perno, la difficoltà a essere colpito. questo punto non so neanche io. Loro fanno dei danni, sì. Come razze, come classe. Ma tutti fanno dei danni. Sì, beh, nel senso non sapere, cioè anche in... Ma dipende da quanti punti mette in combattere. Cioè, allora, sono... tutti partono con due di skill in un'arma e, in un, e uno in un'altra. Ok, quindi sono abbastanza tutti sullo stesso livello. Sì, sì. Okay. Cioè, alla fine a combattere saremo io, poi, ovviamente, e Marco. Tu, come danni, tu fai il danno dell'arma. Quindi io non posso essere troppo scherzo. Che è quello. Più... mi pare che aggiungi la forza. La forza la aggiungi con dei successi. Se fai dei 6, tu puoi attivare delle, delle cose, tipo fare colpo potente, sì, e aggiungi la tua forza. Ok. Sì. Vabbè, quindi detto che posso fare io quello che invece mi metteva più alta la wits. Ma tutto. Cos'è il fellowship rating? Quello dobbiamo fare alla fine, costruiti tutti i personaggi. E... a parte il 6-2-6, cosa c'è? Ah, tu hai... ah, te le dico tutte. Tu hai 5-2-7, 4-3-7. Il massimo è 7, vero? Sì. Cioè, nel senso, se io faccio 5-2-7, posso farlo in 3-8? Sì. Col punto bonus? Sì. Mi sa di sì, però... credo di sì. Ok. 5-2-7? Cioè, sì. 5-2-7, 4-3-7, 5-3-6, 4-4-6, 5-4-5, 6-2-6. Comunque. Allora, 6-2-6 è ovviamente quello colpisci di più e ti difendi di più. Sì. Sei proprio da portare. Hai poco... però tu corrompi di più. Hai, esatto, poco Earth e quindi avrai, perfetto, pochi punti speranza. Dai, perfetto. No, fate il cazzo. Come? Se vuoi avere un po' di punti, quindi Arce alla fine fai quello bilanciato davvero. No, lo volevo fare un po' sbilanciato ma sulla difensiva, tipo tank. Allora, se, vuoi, bene, se vuoi avere Witz un po' punti speranza... è previsto che Witz sia il tuo più alto, eh? Cioè, in base alla tabella... se vuoi fare il tank, cuore sperare Witz. Cioè, giusto, Giulio, il Witz, sì, è quello che è, esatto, sempre un po' più alto. Quindi c'era, qual era quello col 7? Sì, o pari alla forza nell'ultimo... era quello col 7? No, era col 2, col 7. Ce n'era uno che era tipo... ce n'è 7, 3, 4, cioè 4, 3, 7. Oppure se vuoi... no, ce n'era uno col 6... 5-4-5, c'è cioè un 4-4-6, questo, un 5-3-6, 4-4-2, 4-4-6, potresti farlo, scegli se alzarti Earth o forza. Ah, tu conta che, se faccio per esempio, per colpire, con forza 5 devi fare 15, con forza 4 devi fare 16, con forza 6 devi fare 14. Ok, invece la parata come funziona? Cioè l'avversario, se io tipo 8. Se tu hai 8, la tua parata è 20 e io ti fa 20. Okay. Comunque qua me ne fa vedere. Perché poi ci sono le statistiche delle derivate che partono da quelle basi e giù. Queste sono diverse per ognuno, quindi. Sì. I punti speranza ci servono per avere dei più, non mi ricordo più, scusa. I punti speranza potete spendere per avere un dado in più. Sì. Se usate la cosa che vi ho detto prima, 2, sì, nel suo caso, sì, fai successi magici. Oppure potete spenderli per dare l'aiuto a un'altra persona. Sì, dipende un po' come lo vuol fare. E l'endurance? Però ad esempio io non so, Giulio, avere un 4, non capisco se, in termini di punti speranza, se te ne dà 1, 2, endurance 10, è la vita. Come funziona? I punti speranza sono il tuo punteggio di cuore più 6, nel tuo caso. Scusate, endurance, okay, è la vita? Quindi se tu ne hai 4, hai 10, sì, hai 2, hai prima 8. Di svenire, diciamo. Ah, vai, cambia un cazzo. Cambia di 2. La minchia. Io li recupero a fine giornata? No, sono combattuto. Mi recuperi lentamente con speranza. Ok. Sì, vabbè, nel senso che se ne hai. Forse un 7-4-3 che diventa 7-4-4. Potrebbe essere una buona idea. cioè, comunque due potenziali, due successi magici in più, cioè due successi in qualunque cosa tu voglio fare. Sì. Dipende come tu vuoi giocare. Non so se sì, non è fondamentale. Ovviamente, però, nelle prove di Earth 6-4, la difficoltà è 16, 6-2-18. Non vedere gli altri, giusto per capire. Tipo, un uomo di Brea ha più 10, più 20, più 10. Prove di Earth, però, sono quelle skill lì sotto. Giusto? Sono quelle sotto Earth. Sì. Questo che è più 18. Minchia, più 18 vita di Hobbit, un botto di vita. E ha un sacco di parametri. La IPF invece non si calcolano su queste robe, no? Sono endurance, sono forza più un numero, nel tuo caso 22. Forza più 22. Io ho poco cuore di base. Vabbè, dai, facciamo un bel 6-2-6. 6-2-6, allora hai 28 di endurance. 6-2-6, però devo sassare un altro punto da qualche parte, no? Sì. Lo metto in... sono combattuto. In Wits. Non sai 2-6. Che significa sassare un altro punto? Hai un punto in più? Sì, non aggiungere. Sì. Quindi hai 6-2-7. Il rating è quello che dicevi, 20. Ma solo lui ha un punto in più, giusto? Lui, sì. Lui perché è un altro elfo. E i Ramin, diciamo. 6-2-7 e quindi i PF metto che sono? 6-2-7. 28. I PF sono 28 e li scrivo su Endurance. Endurance. La OP è 8. Che sono i miei punti. Il Perry è 19. C'è una cosa. Il rating sarebbe. I tiri di Wisdom, cioè gli favoriti. Come dove lo segno? Forse 7-5-3. Cioè, cosa migliore. Ma quali sono i tiri di Wisdom? Alto. Tutte le abilità. Cioè, intende questo? No, aspetta, no. Infatti... No, c'è l'abilità Wisdom e un'altra. Che ti servono per. E Valor? Sì, Valor e. Ma... Ok, vabbè. Servono per resistere alla paura, all'ombra. Vabbè, non lo ricordo io che. No, dovrebbe essere scritto. Voglio... Eroic Culture. Cioè, te lo segni come razza, cultural, no? Blessing, non come cultural Blessing. Eroic Culture è la mia razza. Sì, Lobby Sense. Mi scrivo Aig. Ho scritto Hobbit Sense, però mi devo ricordare cosa vuol dire. Aig Elf. No, non ci sta. Perché dopo anche Elfo fatto. Sì. Ne ho due di cultura. Ah, se vuoi puoi mettere anche Noldor, per me è uguale. Cioè, sono sinonimi. No. E Calling? Cut. Calling dobbiamo decidere. Okay. Quando tutti abbiamo fatto questa cosa, andiamo avanti. Ah, tu hai anche sta roba che ti devi segnare nei Cultural Blessing, Arci. Elven Wise. Sì, hai quello e hai Beset by Woe. Non so, che in pratica tu puoi rimuovere l'ombra accumulata, i punti ombra accumulati solo durante la fase della compagnia di Yule, cioè quella finale lunga, non in quelle corte. Perché io prendo un bonus e un malus e lui ha due bonus? Cioè non... No, anche lui è un malus, quello che può rimuovere punti ombra solo... Sì. Solo all'ombra. Mm. Solo una volta e solo nella parte lunga. Okay. Se tu dici che il suo bonus è più potente è perché è un altro elfo. No, bene. Cioè, ma anche... scusa, il mio bonus dimezzare il carico è forte, cazzo. Sì, vabbè, sì. Lui ha successo in qualunque tu rimani prova comunque che voglia. Mezzo, capito? Questo è quello che fa passare il gioco. Sì, ma nel senso, se mi colpiscono io non devo togliermi l'armatura come deve fare lui. Sì, ma lui può aver successo in qualsiasi prova. Cioè, ma a me non mi colpiscono, ma... C'è una prova decisiva. Lui sicuramente la passa. Sì. Lui quasi sicuramente la passa. Si vedono anche poi le abilità sotto. Questo gioco, Marco, è razzista. Si vede chi sono i preferiti. Però le chiaramente. Abilità di... Anzi, ti dirò... lo sapevi già, non è che è una cosa segreta. Non sono neanche così barati alla fine di ieri. Potevano essere più barati. Dovevano dire io vinco. Proprio doveva esserci una categoria. Comunque, raga, io tra un quarto d'ora me ne vado, quindi se volessi... Sì, anche io devo andare tra poco. Sì. Allora, facciamo prima quelli che devono andare. Ok. Allora, io ho messo intanto 6-2-7 con 28-8-19. Sì. Il rating non c'entra un cazzo. Cos'è il rating? No, quello... Ah, il tuo standard di vita di... qualità. Ma cosa si mette come standard di vita? Una parola è o prospero? Ma dov'è? Prospero. Dov'è? Standard of living, scrivo? Prospero. Rich. Prospero, no. Rich è... Rich. Prospero. Io ho frugal. No, aspetta, io cosa devo mettere come standard di vita? C'è scritto. Aspetta, te lo prendo io, te lo prendo io. Common, common. Questo qua. Sì. Common. Allora, gli hobbit hanno common, gli elfi hanno frugal, ma nel suo caso sarà rich. I cosi hanno prosperous, i nani. Tu, visto che... e meno free... Arci, segnati che hai... Io ho frugal. Due punti in athletics, due punti in awareness... Cioè, due punti in athletics e due palline. Sì. Due punti in awareness che è favorita. Cosa vuol dire? Clicca anche quello prima della parola. Ah, okay. E due punti in... come cazzo si pronuncia? Oh, abbiamo detto che si pronuncia. Sì, quello ma non si pronuncia. Quindi ho due punti nelle prime tre. Sì. E però awareness ce l'ho solamente, ce l'ho favorito. Esatto, poi hai due punti in song. Scegli di dire dove non avevi i punti. Due punti in craft. Ah, ok, devo mettere i pallini. Canti bene. Un punto in travel. Aspetta. Travel è di qua, ok. Due punti in healing, che è favorita. Okay. Un punto in courtesy. Sì. Due in battle. Sì. E tre in lore. Cosa sarebbe lore? E conoscenza. Okay. Sprecato. Hai due punti. No, tutto personale. Hai due punti o in picche o in spade, a scelta. Cosa cambia? Quale fa più danno? Fanno cose diverse. Spade, dai, facciamo. Non avevo visto la fionda, peccato. E una in cosa tua scelta? Arco. Ok. Arco. Ma non è il tank? Fa lontano. Fanno più danno le spade. L'ho scelta apposta. Okay. Cioè, fai il tank da lontano. Però le picche vanno tank o le feriscono spade? Più facilmente. Vabbè, spade. Ah, se volete fare il tank. Non so, Poi puoi, devi scegliere due tratti distintivi tra questi. Okay. Fair, Keen-Eyed, Lordly, Inquisitive, sì. Merry, Proud, Subtle, Willful. Sì. Traducimi un attimo così. Cos'è questa cosa? Giusto. Keen-Eyed è occhi aguzzi. Ok. Lordly regale, diciamo. Ok. Inquisitivo. Inquisitore più o meno. Okay. Quindi, Merry allegro, proud orgoglioso, subtle. Subtle. Quante deve scegliere tra queste? Due. E Wilton sul saggio. Aspetta, se volete cerchiamo. Willful, testardo, caparbio. Subtle è impercettibile. Delicato. Fine anche. L'elmo è una cosa. Cos'altro avevate il dubbio? Beh, giuro, questi me li posso scegliere anche con calma. Quei due lì. Mi sembrano sì, sì. Okay. Devi scegliere due tra questi. Comunque, dopo vi linkerò. Poi. Condition. No, injury no. Quindi adesso guardiamo l'heroic calcio. No. Facciamo un attimo. Su Salla è già fatto. No, finito così, Giulio. Io ho messo la forza, il heart e wits. E poi ho messo endurance, hope e parry. E poi dopo ho messo la standard of living common. Esatto. Cos'altro manca? Mancano le skill, che devi mettere due in awareness. Allora, due in awareness. Ma io qua faccio solo i pallini, giusto? Esatto. A destra. Che sarebbero i dadi, giusto? Esatto, quanti dadi tirate? Due in song. Due in song, madonna. Tutte sulla forza, ovviamente. Uno in craft. Sì, ma dopo viene il bello, tranquillo. Due in insight. Uno in craft. Sì. Uno in healing. Mm-hmm. Due in courtesy, che è favorita. Sì. E favorita metto la pallina, giusto? Esatto. Pallina a sinistra. No, scegli. Ok. Una delle due favorite che ti dai, aspetta. Una delle due sottolineate, scegli. Ah, già. Ne devi scegliere una tra Courtesy e Stealth. Togli Courtesy. No, no, non è vero. Scegli tu. Io penso... Ah, scusa, Arci, devi sceglierne una di favorita delle due. Due Persuade, cioè, tre Stealth. Tu Healing. Sì, esatto. O Courtesy o Stealth. Awareness, per forza. Cioè Healing. Curi. Sì, vabbè. Cioè, in mezzo a tirare craniate, spadate, bestemmiare, cosa curo? Beh, no. In teoria sei esperto in battaglia, quindi... Aspetta, Courtesy è? Cos'è, scusami? Va sulla Earth. Beh, immagino conoscere... Sarebbe cortesia, l'etichetta. Ah, allora metto Stealth. Vabbè, io non Poi è persuasione 2. Ok, le abilità ho finito, sì. Persuasione 2, Stealth 3 e Riddle 3. Tom Riddle. Poi hai due in una tra archi o spade. Barbone. Metto archi. Archi. E una è un'altra tua scelta. No, due. Due in archi o spade, scusa, più un'altra abilità di combattimento a scelta a uno. Quindi tra quindi posso mettere spade, esatto, a uno. Spade, il pugnale considerato di spade. No, capito, se qualcuno ti fa già il famoso due di spade. No. Cioè sai che vuoi? Quindi c'è qualcuno che fa il warrior. Cos'è il pugnale? Pugnale guardiano. Brawl. No, sì. Ah, quindi non può mischia avere una proficiency. No. Usi quella tua. That's maggiore lo Shadow Bay Path è il okay champion. È una cosa particolare, no, di è il come champion tu hai devi allora, scegliere due skill tra athletics e hunting. Ah, o cos'è pure? Ah, no, come due skill? Me l'ha già messo Giulio. Intimidire. Ah, ok. Devi scegliere. Oh mio Dio, ma le feature sono tantissime, dove le vedo? Come due skill preferite? Tra quali? Athletics. Le feature sono un botto, dove cioè me le leggo tutte e poi decido, giusto? Sì, ne devi scegliere due. Quelle non... con calma, a seconda di come ti sente il tuo personaggio. Ma sono così un po' flavor tutto queste cose qui o... Sì, sono di flavor e se le usate in una prova vi raddoppiano il dado se spendete punti speranza per avere un dado in più. Ma guardiamo le calling. Mm-hmm. Avete fatto tutti qui le skill? Sì. Io a skill ho messo quelle che mi dava la mia razza, sostanzialmente. Sì. Ok. Io ho anche speso i 10 punti extra. Va bene, ma ci sono 10 punti extra. Dopo. Anch'io li ho speso. Ok, le calling sono capitano, campione, messaggero, scolaro, cacciatore di tesori e guardiano. Cosa fanno le calling? Vi danno due skill favorite tra le tre che elencano, vi danno un tratto distintivo addizionale, che sono quei due che dovete scegliere perché descrivono il vostro personaggio, questo ve ne danno uno in più caratteristico vostro, e poi vi danno il percorso dell'ombra, cioè cosa succede se... Okay. Il percorso dell'ombra. Scendo parte. Sentire. Qualcuno torna? Qualcuno è capitano? Che capitano? Io non ancora. Capitano. Nessuno. Campione Arce. Sì. Ho messo atletiche e OU come prima, come due cose gratuite. Ok. Sì, preferite. Io sarò in Word. Poi? E poi devi aggiungere nelle distinctive feature enemy lore. Warden lo voleva fare qualcun altro? No. Ok. Vabbè, non so se due la stessa cosa. Nelle distinctive features che hai detto Giulio? Devi, mettere non è come lore negli altri GDR che è una enemy classe. Alla fine ti aggiunge un paio di tratti. Nemico della conoscenza? Conoscenza del nemico. Okay. Beh, in realtà c'è anche l'abilità dopo. Sì, però non è così fondamentale come scegliere il lato. E devi, e devi scegliere quale nemico tra uomini malvagi, orchi, ragni, troll, mannari o non morti. E i tuoi compagni? Beh, immagino che qua comunque tendenzialmente siano più orchi. Beh, gli elfi ha senso che siano gli orchi. Eh sì. O i nani. No, i nani. Orchi, dai, nani. tu Salla non avevi idea. Mi piace di più. Io volevo farlo scolare, se non lo fa nessuno. Lo faccio io. Allora, cambia. Cioè, per me ci possono anche fare, cioè tanto scolaro. Anche perché sono, ma che... sono 5, quindi per forza 2 perché si sono. Perché tu vuoi farlo scolaro? No, sono. Non vuoi fare tipo il bando. No, sono 6. Cioè Warren. Ah, c'è la vita. Vabbè, però... il Treasure Hunter chi lo fa? Marco. Io. Cioè alla fine secondo me, se tu tipo interpreti che fai una specie di bardo, lui interpreta che fa una specie di... Io sono stregone. Quindi. Cioè. Sono stregone. Sì. Quello perché che non mi salva sta merda? Alla gente. Eh? È quello che gli piace, che piace dire alla gente. Cioè dipende anche come lo interpreti, alla fine poi potete fare entrambi lo stesso. Sì, sì, cioè, non è un problema fare entrambi lo stesso. Cioè, alla fine non è così caratterizzante. Cioè, non è come nel D&D che un ladro ci vuole, un mago ci vuole. Per cioè, un non abbiamo un capite. Non abbiamo... Beh, è allora, tuo. Cambio tutto. Beh, sei il tuo. Cambio tutto e lo faccio io il captain. Sì. Voglio vedervi col Mastro Bibo. Beh, bellissimo. Non posso portare l'anello per voi. Ma posso portare voi. Faccio il captain, cambio anche le statistiche però, metto forza 7 e... non c'è, non credo che ma non puoi, non c'è negli hobby. Forza 12, faccio, art 0, faccio 3, 6, 5, un po' più equilibrato. Ok, io sono i warden in realtà, anzi no 4, 5, 5. Soccia. Fai il tank tra un po', vai in prima linea tu. Raga, il capitano. Fate che fare. Il capitano di solito sta nelle provincie. Lui è un vero capitano. Il capitano dice: quando il mondo è sull'orlo della rovina, è il dovere di, è dovere di tutti gli individui di valore di alzarsi e prendere il comando. Qualsiasi sia il rischio. Qualsiasi sia il rischio, sì. Tu hai scelto di mettere il tuo giudizio al servizio degli altri. Non guidarli, è stealth, è cortesi adesso. Di guidarli in questa ora più buia. C'è qualcuno che ha stealth? Ma non vuoi che nessuno... Good. Segua i tuoi comandi per obbedienza o paura. Vuoi che li seguano? L'importante nella schiena. Dovresti scegliere due cose, ma non possiamo venderle. No, non posso fare il cash. Scegliere l'equipaggiamento. Io scelgo le skill, scelgo Inherden e Persuade. Sì, ci sta. E deve scegliere la virtù e la ricompensa. Quello non so. È ricompensa alta. Cosa vogliono dire ancora? Però magari quello te lo scrivo una settimana. Poi ci sono degli punti extra da mettere sulle skill, ho capito bene. Tieni mio. Hai vantaggio. Ci sono dei punti extra da mettere sulle skill, ho capito bene. Allora, sì, ti conviene guardare dove lo descrive, perché tu ne hai 10, però per passare da 0 a 1 costa 1, per passare da 1 a 2 costa 2, un po' come l'ex arcana. Quindi te li devi giustare così, devi scegliere bene. E quelle combat costano di più. Da 1, cioè da 0 a 1 costa 2, da 2, giusto, dico, sto dicendo bene. Mm-hmm. Le combat le ho ignorate. Io ho speso 6 per portarmi da 2 a 3. Previous experience è questo, vero? Sì. Questo ti interessa? Aggiunti i punti delle skill. Abbiamo 10 punti da giocarsi in aumentare le abilità. Da 0 a 1 costa 1. Da 1 a 2 costa 1. Da 0 a 1 è un punto. Da 1 a 2 è 2 punti. Da 2 a 3 è 3 punti. E da 3 a 4 è 5 punti. Quelle combat costano di più. Sì, però. Per quelle normali. E poi combat da 1. Scusa, i combat. I combat intende combat proficiency. Sì. Le combat proficiency costano da 0 a 1 2 punti, da 1 a 2 4 punti, da 2 a 3 6 punti. Sparerei. Io devo per forza alzare la spada. Quant'è che costa il terzo punto? Se sei a 2, 6. Quant'è che sei? Sono a 2. Ti costa 6, vuol dire che ti... 6 su quanti? Su 10. Anche io alto elfo, una 10, non ho 20. No, se skill è 10. Oh no. Vabbè, quindi dai, facciamo. Sì, vabbè, non ti sono stato di ripassaggi. Per insight. Vabbè, ma se io prendo delle vangate, devo per forza. Sì, invece, Giulio, applicate. Sugli scudi non ho delle competenze, robe da alzare, vero? No. Uno scudo ti dà un bonus alla parata. E basta. Scala. Va bene, raga, vi saluto. Ciao Salla. Ciao. Ciao Salla. Comunque direi che è praticamente finita. Devo mettere i 10 punti. Come e il tirare il coso. Sì. Allora mi ritengo le cose che deve fare anche Salla. Poi ci presenteremo la prossima volta. Però tu come ti chiami? Mi chiamo Gerald Greenholm. Oh, scrivilo in... Ci conosciamo. Sì, dai, almeno di vista così si conoscerà. No, assolutamente no. Cioè, forse tu conosci la mia famiglia, ma io non conosco te. Pura. Cioè, cos'è? Scolaro, la campagna di Vezzo di anche nuovo. È un, esatto. È un capitano mio, quindi stranamente per un hobbit sarà già stato spesso all'avventura. Vabbè, ma poi è ma suo... chi? Tu, sei un capitano. No? In realtà, allora sì, però... Beh, ha la vocazione, cioè, tu... da capitano, non vuol dire che sia un capitano. Ok, dipende anche da quanti anni ha, però... Secondo me no, è il contrario, perché io sono capitano ma non ho scelto robe di battaglia. Ah, ok. Quindi, in realtà sono capitano inteso come leader, perché come... tipo mio padre veniva da una famiglia molto ricca, sì, e quindi mi ha sempre educato a essere super figo e cioè diciamo quello che si deve far riconoscere, tutte queste cazzate. Poi però è caduto in malora, okay. E quindi io non ho un cazzo e per quello... Sei un finto ricco. Sì, esatto. Fai il ricco senza le scene. Va bene, vi saluto. Ciao. Sì, boh, magari ci conosciamo, però. Secondo me l'hai ispirato tu a venire. Ci starebbe al massimo di vista, diciamo. L'ho ispirato io a venire. No, al contrario. Mi ha ispirato lui anche. Potrebbe essere. Okay, volevi seguire il grande Greenhorn. Al massimo, ti scrivo un paio di cose durante la settimana. Va bene. Tra nomi elfi ci ha suggerito ciao Salla, buonanotte. Enel. Va di moda. E Lindo. Lindo. Mastro Lindo. Mastro Lindo. No. Mastro Lindo. Beh, allora, i nomi elfici che qui dà sono Agnor, Beleg, Celegorm, Dairon, Edrail, Fingon, Finrod. Ce le possiamo anche inventare. Windor, sì, poi io l'ho inventato. Basta che prendi un nome di un antibiotico per noi. Sì. Dedrick Tuck, io mi chiamo. Travolin. Ah, sei un Tuck. Di solito i nomi elfici hanno significato. Sì, ma... Per fare tipo i bolgeri. No, mi piaceva il Tuck tipo... perché ricordo vagamente come carattere un po' stupido, tipo Arcibrindal. Quella vena lì, no? Arcibrindal. Travel cosa fa? Travel, penso che riguardi la parte. E awareness è essere consapevoli. Sì, ma dipende dal ruolo che hai nel viaggio, ma sì. La guida credo ti ritrarre Minimor. Ma la virtù iniziale può essere anche una virtù di razza o deve essere una virtù generica? È così. Sai che non ho capito. Che cosa? Se la virtù iniziale può essere di razza o generica? Perché dice quelle. Non sono arrivato a leggere la parte della virtù. C'è anche Dior. Perché ti dice, secondo me quella iniziale è... perché c'è pagina 80 e pagina 79, sono quelle, una di quelle. Però corpicino. Come corpicino? Ma la traduzione. Guarda il non sono tradotti. Guarda. Il mio soprannome però. Dedrick Thunderway. Sì, anche perché fa la lista completa. Ma tu che sei, quindi devono essere quello. In inglese l'originale sarebbe questo, loro sempre. Ah, sì, dai, finiamo un attimo Archibald. Mentre pensi al nome. C'è lo Shadow Path. Sì? Sì, lo Shadow Path non l'hai messo. Tu sei il champion. Devi mettere il tuo Shadow Path. Curse of Curse of Vengeance. Il mio Shadow Path voglio scrivere? Curse of Vengeance. È la maledizione della vendetta. È come il mio paladino. È vero. Individui. Curse of Vengeance. Perché il champion lui ricorda vagamente il paladino, ha ragione. Of Vengeance. Ok. Individuals who live by the sword are ever tempted to draw it. But that's either literally or questo è molto quasi solo flavor. There will a story. In realtà, no. No, non è flavor. I 10 punti ne uso 6. Ah, sei tipo Giulio. Tipo sei tipo Giulio, ti dicono tipo: ah, bella spada. Cosa che tu vuoi dire, bellissima? E sì, praticamente Shadow Path Curse of Vengeance livello 4 sono tutti i miei personaggi. Ok, perfetto. Cioè, almeno però vedi che sei consapevole. Però io posso anche risparmiarmi di questi 4 punti, te li metti da parte. Non credo. Sì. Ah, sì? Non puoi... Sì, perché sì, ti converrebbe spenderli, tanto cioè li prendete i punti, ne prendete almeno 3 ogni sessione. Fissi. Allora non punti era una cosa di abilità, no. Punti di esperienza. Che sì, sono, sia abilità che dove come segno, di Giulio, dove me li posso segnare? Sono 3 punti abilità e 3 di combat. Ma cazzo mi serve? Spendili adesso. Non ho capito. Già spenti, no, a ogni 6. Sessione prendete 3 diventi abbaratissimi. Dipende. Vedrei quanto sono le difficoltà. Ma posso anche aumentarmi la strength alert? Beh, ho capito. 3 ogni botta, cioè sali. Spegni, queste danno la tua scusa, nei 4 aumenta Archi. Dipende per mettere un punto in più. Ci puoi aumentare anche Archi. Capito, 2 sessioni o spendi 4, giusto? È un punto, no? Cioè, dipende, non so quanto sposti. Dicevo, pensavo fosse più. Sposta è un di 6 in più. Per aumentare Giulio quanto paro quella roba, io non posso fare niente. Non sposta fare. Per aumentare le parate, la difesa. E non con gli skill. Cioè, non con questi. Non con questi. Cioè più avanti sì, però più avanti. Beh, allora li metti in archi e la finisci. Ok. Secondo me sì, se appunti quello. Ok, e allora scegli il tuo equipaggiamento, Arci, che è tutto quello che ti pare e che abbia senso che tu abbia. Una K47. La pompa. No, vabbè, te lo dico io, lo sai. Spada. Spada elfica. Longsword. Spada lunga. Allora, damage. Fa 5 danni. Ingiuria? Ingiuri è 16 con una mano o 18 con due mani. Se lo 16 vale 18. Esatto. Load? 3. Notes? E può essere usata uno o due mani. Vabbè. Una, vabbè. O due. E se voglio poi avrai un arco. Arco? Che fa 3 danni. Damage 3. Ingiuri? 14. Un po' scarso l'arco, devo dire. C'è anche il Great Bow. Però... Load 2. Potrei portare il bow a 2. Notes. Arma a distanza. E quanto è la distanza? Quello che ha senso che ha. Okay. Beh, per un elfo. Poi, scudo, Giulio. Centinaia. Scudo. Scudo puoi scegliere... Tra Buckler, Shield. No, scudatore da legionario. Great Shield. Non so se vuoi venire. Rincuorare. Marco, mi vai su gli item quando gli dice lo standard di vita che devi avere per avere. War Gear. Aspetta, cosa vuoi sapere? Great Shield. Scusami, devo... c'è damage, injury, load. No, è più avanti, è più avanti. No, le altre sono finite. Scusi. Grid Shield. Tu ridi cos'hai? Un botto. Ok. Cioè, sì, standard of living requirement, pagina 100. Aspetta. Hai solo 2. Però c'ho anche. E l'armatura Elmo, Giulio? Ok. L'armatura può essere. Cuoio, corsetto. Maglia di cuoio. Prospero. Grid Shield, Prospero. Allora lo puoi avere. Fatto 2. Però inizia ad essere un po' perché è load 6, Praticamente gli hobbit. E quindi? Nella quanto hai il massimo di load? Sì, è vero. È vero, sì. Il massimo di load è il tuo... Credo 28 e 29. Sì, effettivamente. Vabbè, raga, sono 8. Però... No, scusi, sono a 5, però. Ho guardato il load. Devi scegliere anche l'armatura ancora. Ho capito. E lì. Vabbè, al massimo butto dall'arco. No, non so quanti siano. Scusami. Il Great Shield Quanto ha che se i tuoi punti endurance vanno pari o inferiore all'ingombro, come più o meno sei ingombrato. Ok. L'endurance shield mi dà pari load 6. Load 6 pari 3. Pari 3. Great shield. Sì. Load 6 pari 3. Invece l'armor più 3. L'armor ti dà dei dadi protezione che tiri quando vieni ferito. Io ho preso la minore, nel senso, no? Che armatura vuoi? Io ho preso la più schifosa. La mia piuttosta. La piuttosta, è l'od 12. Che è un po' tanto. Gli elmi invece piuttosti? No, l'elmo è cioè un elmo. È uno solo. L'od 4 gli dà più 1. Dado protezione. Il 4 potrebbe stare anche senza elmo. Non botto il carico dell'elmo in proporzione al l'elmo cose. È meno efficiente dell'armatura, devo dire. Ma l'elmo te lo puoi togliere comodamente e continuare a combattere. Okay. Giusto, se ti ingombri. Giusto, e lanciarlo come arma da lancio in faccia al nemico. No? Volendo. Sì. E armor, Giulio, dammene una. Allora, adesso io ho load 10, sono a load 15. E quanto hai di endurance? 28. Io, guarda, io se fossi in te prenderei... Vabbè, non ti cambi, cambi i due. Allora c'è la mail shirt che ti dà 3 dadi di protezione, ma load 9. Ma può fare 6 più 4. Oppure il corsetto di pelle che ti dà 2 dadi di protezione e load 6. Sarà quella più l'elmo. Allora, scusa, la cotta di maglia non dà 4 dadi e load 12. Sì, sì, 4 dadi e load 12. Puoi far senza elmo. Dai, più 4, 13. Sì. La injury è il... Il carico così. Dai, carico. Mettiamo la cotta di maglia. Se la tua endurance va pari e poi sotto. O sotto. Cotta di maglia, quindi dati 4 dadi di protezione e 12 di peso. Tipo se vai ingombro 10. Quindi tu adesso di pari hai... Giù, sei ingombrato. Il 12 pari, più 11, 7, 19, 22. No, io ho 7 di pari. Perché? Più cosa? 19, ho. Più. Ah, più 3 dello scudo, 22. Ma è un sacco. Parecchio. Vabbè. No, non ti serve l'armatura, Argi, non ti serve. No. Marco, è perché ho l'armatura che ho... No, l'armatura non ti dà del parry. L'armatura, quando tu vieni ferito, ti dà dei... Tu, quando vieni ferito... Però se io, non, se io paro tutto e non vengo ferito, le cose non mi cadono. Esatto. Sì. Questa... però allora non esatto. Però l'armatura ti serve quelle volte che vieni ferito, quindi meglio avere sì. Beh sì, sì, sì, no, per impedire di andare sovrappeso e dover lasciare l'armatura andare sovrappeso. Inoltre per stare a dieta dice l'armatura ti tira un po'. Tu puoi scegliere 3 a furia di seconde colazioni, 3 oggetti utili. Cioè davvero, però standard living rich sì, però non di base, non ci può partire. Tra oggetti utili, dove li scrivo gli oggetti utili? Zio Gilgalà, padre Gilgalà e zio Aaron, porca miseria, giù sono rich. Anche Very Rich potrebbe Sauron è... Poi Sauron pure Sauron. Da la paghetta. Dain, amico d'infanzia. Allora, gli oggetti utili sono... Allora, di base avete ovviamente l'equipaggiamento per viaggiare. Questo è considerato che l'abbiate senza ulteriori cose. E gli oggetti utili sono qualsiasi strumento, oggetto, congegno trasportato da voi per fare qualche cosa specifica o utile. Ti dà un bonus a una... Sì, sono cose come martelli, coltelli da cucina... Vabbè, coltelli da cucina che si devono buttare via una spada per di buona fattura, lanterne, flint and steel, acciarino, pietra focaia, cose così. Queste cose ti danno... Hai un dado in più se fai una prova di abilità usando... Che ha quindi questa senso. Possiamo scegliere noi quello che vogliamo. Sì, potete scegliere quello che volete più o meno. Quindi tipo, potete pensarci. Se una song può mettere uno strumento. Se volete, ci sono degli esempi di oggetti utili. Beh, intanto Giulio con queste cose. Io devo andare però. Gli esempi di oggetti utili. Vabbè, più o meno abbiamo finito. Magari c'è l'ultima cosa. No, vabbè, tanto è base, quindi possiamo farlo anche la prossima volta. Perché tanto le starting reward e virtù sono, le, sono quelle base. Okay. Anche a me mancano virtù e reward. No, non so decidere. Voi vuol dire fare tutti i tipo per colpirmi ma fare 22 più. Quindi vuol dire avere 4 dadi. La vita. Grit ball posso avere. Io sì, l'avversario. Almeno. Un liquore per infondere. Cioè, forza, no, in realtà c'ha comunque il di 12. Che se faccio. Io se faccio occhio di Sauron per me è successo automatico. Però devo fare. Devo fare un chissà. Però successo automatico devi mettere si feste. Sì, ti colpisco. Che cos'è una sunstone per viaggiare col brutto tempo? È una pietra solare, serve per orientarsi col sole. È quello che usavano i vichinghi. Ah, ok. Ma io posso avere una mappa sia per viaggiare che per esplorare? Una mappa per viaggiare. Una mappa per viaggiare, puoi avere una mappa dell'Eriador? Sì, una mappa per esplorare ha senso se è una cosa specifica, cioè hai la mappa di una qualche caverna. Ma qui negli esempi da mappe per esplorare, per la skill. Map explore. Cioè anch'io ho tagliato set di mappe. Anch'io sceglierei mappe. Allora non c'è esplorare. Cioè non c'è... Non posso mettere mappe. C'è travel. Io mi sa che devo dei soldi perché ho preso. Sì, anche dopo ti devo fare un toast. Io ti devo 4 euro. Ho preso un toast in più e. Il Liban. Anzi, posso pagare in contanti. Posso staccare quindi in cassa? Sì. Io cerco di massimizzare craft, can e travel. Un mantello mi mette. Sì, prendo lo scontrino, Alex. Lo scontrino che lo deve averlo perso. Scrivi in italiano. Però posso vedere i miei ordini, no? Sa più o meno cosa due euro qua. Sì, mi ricordo di più. Qualcuno prende esplorare? Io ho due in esplorare. Cioè, tiro due di sé. Sei mai favorita? No. Ho travel però favorito, dai, è già qualcosa. Quindi nessuno ha favorita. Ma scrivi meno che ti nascono. Scusami, una mappa che mi aiuta a esplorare. Sì. Ma cioè esplorare io intendo un luogo che non conosco. Nuovo abbiamo fatto, non quindi come faccio ad avere una mappa di un luogo che non conosco? Una mappa dettagliata. Hai un set di mappe di vari luoghi e guardi. Quindi adesso si fa mercoledì sera, giusto? Sì. Ciao. Guarda il tasto della luce verso. Pisa di tutti. Sì, io copio banalmente quello con la lucina. L'esempio, ma prendo le mappe. Più forte però, ti tiro di più. Pisa di tutti di no, più. Le mappe le ho io, cattivo. Ah, le prendi tu? No, va bene, va bene. Era per averle qualcuno che abbia senso averle. Sì. Metto maneggiato con cura. È che io ho due più favorito su esplorare, quindi se nessuno prende esplorare prendo io le mappe e faccio che ho il bonus. Sì, sì, va bene, va benissimo. Comunque io già... Aspetta, ma tutti avete fatto l'equipaggiamento, non credo. Cosa stavo facendo? Aspetta. Manca ricompensa e virtù. Tutti avete speso l'esperienza però. 10 punti. Arci l'aveva. Io l'Arci l'ho spesa. Sì, l'Arci l'ho spesa. Arci ce l'ha. Ma Arci ha massimizzato cura, sì o no? No. Ha anche tolto il favorito. Io ho qualcosa di cura, ho due. Però non ho aumentato niente di cura. Ho due di healing. Sì, sì. Però non ho preso. Ok, nessuno si cura. Non mi fate male. Perderemo tutto. Abbiamo avanti a forza di perdere. Dipende, qualcuno di voi è molto forte in insight? Io. Tu? Perché? Io solo due. Tanto healing è su op, giusto? E allora potrei cambiare io, dai. Potrei prendere io healing forte. Insight ho tre favorito. Ah, allora no, aspetta, perché anch'io ho preso insight favorito, dai, cambio io. Raga, non è un problema. Sì, no, vabbè, ma nel senso fate doppioni, dai. Allora, che cosa vuoi di equipaggiamento? Non c'è problema. Sono io il guaritore della compagnia. Improvvisamente tu sono diventato io. Beh, comunque i Dunedain sì, ci sta. Allora niente, via tutti gli insight che ho preso, che tanto valevano 3 punti. Healing me lo prendo come favorito e mi prendo un punto in più, perché da 2 a 3. Ah, perché è in forza. Da 2 a 3 è 3. E quindi va bene, sono dentro. Sono io il curatore, Marco, stai tranquillo. Penso io a voi, ragazzi. Ah, essendo 3 caratteristiche, per forza di cose, sono un po' tagliate con la C. Sì, sì. Però hanno tirato su $1 milioni col Kickstarter, quindi non farei a... Beh, il Kickstarter lo paghi prima di avere... Se volete qualcosa, c'è un nocino. Questo è più dolce, fico d'India. È il classico gesto. Che cos'è quello? Questo dopo, più dolce, fico d'India. Mio. Sai che amo le cose male. Mi passi una cappa, mi medica che mi dà un dado a stealth solo nella natura. Tu, Giulio, vuoi qualcosa? Un nocino? Solo nella natura, non puoi essere mimetica per tutto. Che fosse ma ha senso per me abbandonare cuore e andare solo grazie. Forza sì. E wits, perché alla fine se ho 3 o 2 di cuore non cambia niente. Cos'è no? Quello? Infatti questo sì. Fico d'India un po' oddio dipende sposti di uno il tiro di dado che ti serve sì ma uno assaggerò tutti che in confronto iniziamo ad avere un 5 che magari con le fico skill d'India. Diventa un 8 so. Che è un po' più dolce, te ne do a metà. Grazie. Così se ti piace, se no cambi. Cioè, la differenza tra un 7 e un 8 si sente molto di più della differenza tra un 2 e un 3. Tra che altro Arcico con il 2 in art? Io non so, sono combattuto. Ho preso 7-4-4. Quegli oggetti, quindi hai detto secondo te. Perché è un più 1. Sì. Con la Sunstone. Però non so se... Che scemo, era il Pavel? Mi ero convinto di no. Questo lo togliamo di mezzo, che è il mio obiettivo. Non mi piace la Sunstone. Ho inventato qualcosa io. Vabbè, è una cosa per viaggiare, una bussola. No. Non c'erano le bussole. No, uno strumento che si aiuta con le stelle. Come si chiama? Salute! A voi. Il compasso. Si chiama compasso, banalmente. Salute, salute. Astrolabio. Sestante. Ho un sestante, no, vale. Simil sestante. Ma poi altri sono dovrei recuperarlo bene. Simil sestante, scrivo. Allora, chi deve fare lo starting gear? Io. Cioè, io lo sto facendo, però allora il load devo considerare la mia endurance, giusto? Sì. A me dava la possibilità di scegliere combat proficiency e di sceglierne una, oltre a 2 di swords. E ho scelto bows, quindi posso prendermi un grit bow. Sì. Perché? Io no, il grit mi sa. È 4. No, non posso andare un sacco di anni. L'injury, non ho capito cosa vuol dire, però scusate. L'injury, quando fate una ferita, quello è il valore che, minimo che devo fare per evitare io di prendere la ferita. Cioè io il ferite. Ok. La difficoltà è 16. Sì, stavo guardando quello. No, vabbè, ho anche la spada lunga, anch'io, che poi è 16, ci metto barra 18. I load sono... Davvero la short spear? Sì. Uh-huh. E... sono 3 e 2. Sì. Beh, ma in realtà... Scusa, che note ci sono? Long sword, sì, che abuse one of the... Puoi averla con due mani. E il Gregor range. Available, Hobbitar, c'è anche Short anche la lunga vuole. In realtà non è così. È Great Spear, può usarlo. La spear normale, sì. Ah, la... scusa. Perché sono tre spear. L'armatura, sì, posso scegliere quella che voglio, però... cazzo, ok. Sì, standard. Tieni conto che puoi prendere una ricompensa che diminuisce di 2 il carico... di un oggetto, di un'armatura, un elmo, uno scudo. Cioè? Quello lo vediamo dopo. No, però sì, ma nel senso, se adesso sta facendo il conto esatto... No, vabbè, ma tanto... Sì, allora, sarebbe opportuno non arrivare al limite che al primo colpo siete faticanti. No, però io volevo capire... Ce l'ha qualcuno? Ce l'ho. Vabbè. Ce l'ho a metà. Vado a vedere sto standard di cose. Così sono. Io sono una lattina, ho protezione alta e vado per quello. Perché io non voglio lo scudo, mi piace. Archie va per Wits, cioè va per Perry, nel senso che non lo colpiranno mai. Ma una Perry alta, Perry, cosa lui intendete voi? Esatto. 22. Ah, ma io ho 17 comunque. Ma io 18. Cioè penso che non sia così diversa, sposterà di pochi punti in teoria. Beh, 22 insomma, più 5 in più 22. 5 punti è, male, eh. È tanto? Sì. Sì. Okay. Sì. È almeno un dado in più. Ma un dado alto in più. Sì, è vero. Cazzo. I nemici hanno lo stesso, si tirano come noi. Un di 12 in più le abilità. Un di 12 in più. Sì. Diciamo che un nemico che cerca di beccare Archie tira lo stesso di un nemico che cerca di beccare te. Stato. Però sì, sì, non dà ragione. Sì, sì. Talking with Danny. No, io devo vedere lo standard of living. Io il patrono l'ho già segnato il mio. Ma il patrono non è di squadra? Sì, sì, in teoria sì, arriveremo alla fine. Tu hai scelto Tom Bombadil. No, io ho scelto Gandalf. Sì. Io Tom Bombadil. Io conosco Gandalf, è il mio amico, hai capito? Sti cazzi, dai, ci viene su. Allora... Tom Bombadil, il maggiore maggiore di Gandalf. Okay. Scegli Tom, scegli Tom anche tu, andiamo tutti per Tom. Minchia, ma io posso scegliere solo delle armature Sega? No, ma Giulio ha detto che ci dobbiamo ispirare alla serie TV, Tom non c'è, c'è Gun. Giusto? Non posso fare la serie di Amazon, dobbiamo ispirarci solo a quella. No, sai, sai Gun. Hai ragione. Io ho la mia teoria e non la mondo. Il leather coso? Ma sei un ramingo. Però potrei far l'elmo, triste ma giusto. Beh, l'elmo l'elmo non è buono come armatura. Ho capito, ma io sono povero. E puoi far l'elmo e puoi dimezzare il carico con la fattura. Non lo so. Non devi fare per forza. Come vedere. Mi puoi fare il baclerino. Potrò permettermelo il baclerino. Guarda, due di carico. Ah, quindi devo modificare. Perry io in realtà ho 18, non 17, perché ho anche il buckler. Ah, il buckler va in... cioè il scudo va sul Perry? Esatto. E l'armatura no, però. L'armatura ti aiuta in caso di ferita. Allora, vediamo. Se io prendo il leather corslet... Tu dovresti prendere anche il grande arco, magari, no? Io ce l'ho. Sì. Ma va a forza anche usare l'arco? O va tipo a wits? No, sempre forza. Pensi di essere lo stregone? Sì. No, io non penso, io sono. No, pensavo. No, posso quindi fare solo leather corsle. Un useful item, cioè un mazzo di carte. Cagare. Protection, sì. Protection fa di dadi, quindi. Carta vince, sì. Carta aperta. Io faccio veramente cagare. Devo prendere per forza l'elmo. Se no non posso stare in piedi. Ma tu frequenti la contea, conosci gente nella contea? Conosco tutti. O tutti conoscono. Però se non c'è lo spazio per scrivere tutto, vuol dire che non posso prenderlo. In che senso? Non c'è Che senso? Cosa vuoi dire? Ah no, l'armor, scusate. L'armor è più a destra, sì, anche io ho fatto lo stesso errore. Scherzone. Leather... Però posso dire, una simil fionda o qualcosa, io ce l'avrei messa. Cose. Non c'è la fionda? No, almeno. Sai che il mio inglese non è eccezionale, ma non c'è. Protection. Giulio, cosa significa TN? No, ma ha più senso, un hobbit è più figo con la fionda. No, ma nei libri non è altro. Sì, lo so. Beh, vabbè. Senti, sapiente. Stavolta è... Cosa hai detto, scusa Marco? Cosa significa TN? Dove? Shield Butler, che è... attributo TN, penso sia il tuo numero. Non so dove TN. Ah, TN c'è scritto. Per cosa sta TN? Target numbers, target numbers. Ah. Vabbè, io di load ho, così facendo, 5 Il rating era 17 su 27. No, il target number è 20 meno. Ah, scusa, è il contrario. Infatti, adesso che ha detto target number, ho capito. Sì, perché in grande vedi quello che ti interessa. Per forza, se no faccio proprio cagare. Anche già solo così a protection faccio veramente schifo. Dove si segnano useful items? Gli oggetti utili dove si segnano? Io li ho segnati qua in traveling gear. Sì. War gear. No, per traveling gear, scusate. Anche inventare. Io ho preso una cappa mimetica che mi dà un dado stealth, però nella natura solo. Sì. Ci può stare. È tipo camouflage, una cosa così. Sì. Un libretto di indovinelli che mi dà un dado a riddle se. Okay. Dove trovate i useful items? È una specie di. C'è una lista davanti, ma te puoi anche inventare. Sì. E poi una specie di sestante strumento per le stelle per viaggiare. Pagina 100. Ma scusa, tu ne hai tre? Tu ne hai due? Cioè, no. Brutta storia. Strada non dovremmo più, mi sa. Tolgo il libretto di indovinelli. No. Sì. Come? Sì. No, tolgo. Ma Riddle è l'indovinello, no? Sì. No, tolgo la K. Perché sono finito su pagina dei non morti? Pagina 49. Useful items nel 158. Vai da 158. 49 useful items. Porca miseria. Oh, forse qua c'è la. No, la cappa mimetica. Allora. Ma io nessuno di voi è povero Frug. Ah, no, io sono Frug. Infatti, sto prendendo tutte le robe. Tipo, vorrei questa cotta di maglia. Ah, no, troppo. Questa troppo. Coraggio. Quindi tu hai un oggetto utile. Io sì. Ah, perché dipende dallo stato. Allora, sì. Scusa, me l'ero perso. Eh sì, perché io sono povero. Ma io posso prendere. Non come voi, Borghesucci. Cosa hai detto? Voi, Hobbit Borghesucci. No, stavo pensando se potevo prendere un oggetto e poi prestarlo a qualcun altro. Scusa, dov'è sta la cosa? Pagina? Io ho un set da prestidigitazione. Prestidigitazione. Il libro degli incantesimi. Rega, però pagina 49 non c'è la lista. Scusa, ti dà un dado a? 50. Cioè, non c'è. Non 50. Esempi di oggetti utili. Ah, esempi. Scusa. Ma poi uno se lo sceglie. Sì, puoi anche inventare. Sì, te lo puoi inventare. Ah, vabbè, adesso penso. Un libro. Non so. Tipo stivali molto comodi per viaggiare, qualcosa del genere. Cosa? Una cerpa dai fuochi. Ma cosa? Un pistello. Come? A che abilità ti danno? Lore o qualcosa del genere. Okay. Tipo un canocchiale. In realtà è una roba, cioè. Perché mi immagino che lui faccia tipo, come si dice, delle performance. Lui chiaramente è uno stregone. È chiaro. E quindi tipo, non c'è un... Secondo me è versatile quel libro degli incantesimi. No, dovete scegliere uno. Perché può essere. No, perché magari può essere anche persuadere. Cioè, dipende cosa devi fare. Può essere tutto, ma dovrà scegliere una cosa. Per prestidigitazione. Ah, giusto, è anche quello. Hai ragione, allora sì. Alla loro. Ma che... No. Lui è Jack Sparrow, praticamente. A casa. Una cosa come viaggiatore. Il bastone da passeggio. E minchia, beh. Acciarino e pietra focaia. Vabbè, sì. Sì, quello beh, dai, quello serve. No, è un oggetto utile. Ah, non ce li abbiamo di base. Tra gli esempi qua. Vabbè, hai detto che abbiamo di base tutto quello che serve per viaggiare. Potete accendere un fuoco, però l'acciarina pietra focaia è comodo. Ma tu saresti il nostro, quindi. Sono della corda. Sei il nostro esploratore. All'improvviso, no. Quando è successo? No. Hai detto viaggiatore. Oppure un coltello per. Io in travel. Un coltello no, per esploro 2 però sì perché mi sono esploro 2 travelo 2 con vantaggio quindi adesso ho la corda devo prendere un coltello da caccia da cucina a knife for utensili da cucina dai Sam beh O la corda. Coso, sì. No. So, guarda anche rispetto alle tue abilità. C'è un vento tra l'altro. Ma dov'è? Dove hai trovato l'accendimento per vocale? È sopra quando, nella parte descrittiva, quando dicevo Giuseppe. Io devo cominciare ad andare anch'io, visto che sono ora. Vabbè, i tratti distintivi, quelli me li scelgo un attimo con calma. Sì, oppure puoi prendere una serie di erbe per curare meglio. Sì. Per prendere le guerre curative, le erbe curative. Sì, metto così, dai. Dei balsamo. Come si chiama? Quindi che cosa manca? Manca balsamo, starting reward and virtue. Cacchio, anche la fine pipe to find comfort. È figo, eh. Avete... Allora, sì, spiegacene. Avete tutti adesso uno in reward e in virtue. Come valore, come cioè, valore. Per scrivere qua in piccolino. Un dado. E che cos'è questa cosa? Questi vi servono per fare cose, per sostanzialmente... Allora, uno indica le ricompense... Diciamo il valore di reward indica quanto siete noti alle vostre gente e le virtus, le vostre capacità innate che crescono nel tempo. E andando avanti ne potrete prendere delle altre. L'essere conosciuti quindi indipendentemente dalla storia di ognuno, esatto. Si parte da uno. Ah, io volevo fare super famosissimo. No, super no, però magari tipo Salla che è un capitano, magari era già un po' più famoso, quello intendevo. No, perché questa è una cosa. Ma quale spiega i feature? Sarà famoso nel suo villaggino, però nel mondo è un nessuno. Esatto. E il valor influenza le virtù, cioè no, scusate, le ricompense, e il wisdom influenza le virtù. Voi avete uno in Valor e uno in Wisdom, sono come l'abilità hanno 1 a 6. All'inizio avete 1 e 1. Valor e Wisdom. Cioè, quello li spendiamo per farci allo più... All'inizio del gioco tutti i giocatori scelgono una virtù e una ricompensa da quella lista lì. Ok. Chapter 5. Delle liste che alla fine pagina 51 a destra. Potete scegliere tra le ricompense e... Io sto guardando rewards a pagina 79, sbaglio? Ma quella sì, sì, sono le stesse. Sì. Sono le stesse, solo che pagina 51 c'è tutto insieme in un quadratino. Le starting rewards sono un'armatura o elmo... fatti che aggiunge più due alla protezione. Protezione. Ok, tanta roba. Una che riduce il carico di 2. Sì. Oppure un'arma che innalza l'injury rate di 2. Oppure... E tanto innalza l'injury rate di 2. Sì. Oppure che innalza i danni di 1. Oppure che fa un piercing blow con un 9 più. Al posto che 10. Ah, giusto. Il piercing blow, cioè il colpo penetrante che può fare una ferita, si fa se fate 10 sul danno, 10 più di danno. Ah, quindi sostanzialmente o 10 o runa di Gandalf sul fit dice. O 10 o runa. Quindi 2 su 12, quindi un sesto, e questo te lo porta a 3. Esatto. Scusa. Il TM a un target quarto. Number vuol dire che è 20 meno il rating. Sì. Ok, devo farmi un po' di conti per decidere la reward. Oppure uno scudo rinforzato. Cosa conviene aumentarmi il parry o l'armatura? L'armatura come funziona a livello pratico, scusa? Cioè, sono dadi? Sì. Quando loro ti feriscono... Sì. Cioè, fanno un colpo penetrante e ti feriscono. Sì. Tu devi resistere, devi fare un tiro contro l'injury rating di quello che ti ha ferito, che avrà il suo target number. Lui mi ferisce se passa il parry. No, se passa il parry ti colpisce. So di avere un problema. Mi ricordi voi? Però normalmente se ti colpisce ti toglie endurance. Okay. Ma togliendoti endurance, ok, tu se arrivi a endurance 0 svieni. Ma non sei a rischio di vita. Ti seguo. Se invece fa un 10 o più nel colpirti, o se hanno delle abilità particolari, ti fa un colpo penetrante, ti ferisce. E voi di ferite ne potete tenere al massimo 2. Dopo siete morti. Ok. Per resistere alla ferita, tu tiri un tiro di protezione con la tua armatura. Quindi tu tiri i dadi della tua armatura e devi fare più di quello che è il suo target number in quell'occasione. Tipo, tu hai la spada che ha 16 a una mano. Sì. Se tu ferisci me, io devo fare 16 o più per evitare di essere ferito. Ok. Io un dado per l'armatura, okay. Quant'è? Un di 12 o di 6? Sono sempre di 6. Io ho preso lo scudo rinforzato, quindi aumento la parata dello scudo di 1, giusto? Sì. Piccola domanda, quindi. Se io ho elmo e cotta di maglia, io tiro 5 dadi di protezione. Quindi un più 2 mi è totalmente inutile, perché 5 di 6... Ripeti? Se io ho la cotta di maglia, quindi ho 4 dadi di protezione, poi ho l'elmo, quindi aggiungo un dado di protezione, quindi in totale 5 dadi di protezione, che sono dei D6. Quindi come media ho tipo 15,5. Va bene. Quindi un più 2 mi è inutile, andare a 17,5. Valuta tu. E le virtù... Ah, ci fanno quelli. Potrei aumentare la mia speranza. L'endurance, no. Choose to skill and make them fail. 15, 5, 17... E noi possiamo usare anche un virtù, una, scegliere una di queste virtù. Sì. Siamo fortissimi. Reduce one attribute TN by one. Raise your parent rating by 1. Infatti secondo me Arci già che il parent lo può aumentare. Quanto the damage inflict o fare di blu. Potrei. Però confidence non mi piace. Potrei alzare il mio parent. Dopo il parent ho 20. Anche se anche aumentare la speranza di 2 è meno male. Quindi come funziona la protezione? Me lo puoi ripetere? Se prendi una ferita, cioè se fa un colpo penetrante l'avversario, tu devi tirare un tiro di protezione. Ok. Quindi il punteggio di ferita devo batterlo per il dado. Sì. Quindi se io tiro in media 19,5 è meglio che se io tiro 17,5 perché sono invulnerabile da più armi. Non devo illuminare ma non vedo. Ragazzi, dove tieni la carta? Che carta? Differenziata. Ah, è sotto il coso. Ok, no, va bene. Massimizzo protezione. Massimizzo protezione. Sì, comunque tiro un feed die più i numeri di dadi all'armatura. Io ti volevo chiedere una cosa, Giulio. La speranza. Tu dici, cioè, come... È l'ultima a morire. Come funziona l'atto pratico? Tu dici, spendo un punto speranza. Ok. È come la pietas. Questo è dai, uguale all'ex arcano. Questo sì. No. E la puoi spendere sempre. No, voglio capire, nel senso, io sì, tipo sì. Avrei 10 punti speranza, presumo che non siano tantissimi, come però come si usa? Quando devi fare una prova. Ok. O anche quando devi fare un attacco, colpire un avversario. In qualsiasi tiro che devi fare. Ma ne spendo uno solo. Spendi un punto. Si ricaricano quando? Quando c'è il... Si ricaricano... quando riposi quando c'è il riposo nel luogo sicuro. Allora l'endurance rappresenta la vostra capacità di resistenza, la vostra resistenza fisica sostanzialmente. Vabbè, voi potete fare uno short rest Vabbè, questo è il giorno e recuperate un numero di punti endurance pari alla forza. Fate un prolonged rest, tutta l'endurance. La hope vabbè, questa è una recovering hope. Voi potete recuperare la hope spendendo punti compagnia. Che dobbiamo calcolare quanti punti compagnia avete. In pratica avete un pool di punti compagnia. Ah. E ogni sessione, e voi potete prendere da lì per recuperare la speranza. Ovviamente questi diminuiscono. Ma nel senso che, ne so, c'è un tiro di speranza, cioè esiste anche il tiro di speranza oppure no? No, no, la hope è una cosa meccanica per darvi dei bonus o dare dei malus ai nemici. Okay. No, credo anche di malus, sono... Ok, ok. Ma non sono tiri di speranza, al massimo avete dei tiri di earth. Ok. Come c'era quel bot? Allora facciamo... Che grava? Ma dove? Poi durante la fase della compagnia potete recuperare un numero di punti speranza pari al vostro punteggio di Earth. Negli altri. E se siete a zero hope, cosa sconsigliabile, recuperate un singolo punto di speranza se fate un riposo prolungato. Come funziona il bot, Marco? Che bot? Quale bot? Mid Journey. Quello è limitato. Va bene, sono arrivato a 20 parri. Non funziona bene perché fa un po' cagare. Ho provato a generare la mia immagine prima, però... Quando la vedi? Quando abbiamo provato all'inizio non funzionava. Va, però non la fa bene. Cioè io vedo alcune immagini che tu hai provato, ma non... Quella che ha visto... Quella che hai fatto, che l'ho vista da lui prima, da Capo. Dove l'hai fatta? Su che canale? Dove? Su meme sono le immagini. Vabbè, parliamo di Shadow Path. Sì, però prima per quelli che hai visto tu prima non ci sono qua. Path of the Spirit. Sono rincoglionito io. Marco, ma cos'hai messo in descrizione? No. Slash, immagine e poi test. Capito, ma per far uscire quella cosa che stavo qua vedendo? Quale cosa che stai vedendo? Ah, non c'è più. L'hai tolta l'immagine. Non c'è più. L'hai tolta? Ci sono anche i flows, anche le effetti. Sì. Vabbè. Ecco che l'ha tolta, cioè sono rifambito. Scusami, quindi il patrono voi cosa avete scelto? Allora, per come la vedo io, ha senso che tu e Arci non siate d'accordo. Ok, dimmi qualche aggettivo per descriverti. Pelato. Ah, Champion e Warden. Dimmi qualche aggettivo per descriverti. Geralt Greenhorn. Chi è Geralt Greenhorn? È Arch. No, è Salla. Salla. È Salla. Ah no, scusa. È l'Hobbit. Io? Non l'ho ancora fatto. No, voglio pensarlo con calma. Luigi, dobbiamo metterci d'accordo per sceglierne uno insieme e dare un senso alla compagnia. Ma io ho provato a generare delle immagini. Ma secondo me possiamo anche iniziare separati. Vi incontrate per caso e avete dei patroni diversi o non ne avete all'inizio. Può essere che tu e Arci, che probabilmente potreste conoscervi, abbiate un patrono. Come me, Salla, magari. Sì. Devo convincere. Cioè, il mio l'hai capito, è Gandalf. Ah, i dettagli. E Elrond c'è anche come patrono per i Warden. Però lì non c'è. No, perché in Rivendell. Sì, dai, sarà Elrond. È lo zio di Arci. Quindi Deliban che ti pago. Ma tu sai gratis i bonifici? No, credo sì. Scusa, che banca hai tu? Che banca? Non fai banco, ma per te. Cosa è banco? Io ho un Axi Pace. Ah, giusto, un Double Chicken BBQ e 3,80. Cos'è un banco Mattei? Io adesso devo 3,80, facciamo 4 così ti do parte della consegna. Sì, puoi prendere 5,80. Mi ridai quelli di prima? Sono lì. Ti do 6 euro. No, cioè, boh, vabbè, sì. Vabbè, no, se aspetta. No, così è credi. Allora, banco Mattei, c'è l'intesa. Poi ci sono questi. Dovrei dare 4. No, vabbè, mi dispiace che paghi. Quanto mi devi dare? Scusa, 14 euro. Non hai niente di cash? 50. Cos'erano 2,50 di consegna? Quindi 2,55. Che mi fai qui? Meno i 3 del giovane. Perché li hai pagati Arci? Quindi dovremmo dargli ad Arci in teoria. Chi? Dovremmo dargli ad Arci. Diventa complicato. Che cosa? Che è la prima consegna. Non te l'abbiamo pagata, però ti ha rimborsato 3,80, che però aveva pagato Arci. Ma bisogna vedere se Arci me li ha ridati. Quindi, no, te li ha ridati tramite Glovo, quei 3,80. Ah, se Glovo te li ha ridati. Sì, te li ha ridati, non lo so. Mi state scoprendo. Non datemi... Cioè, datemi dei soldi. Vabbè, ti do 7 euro, dai, facciamo conto fai. Datemi i soldi che vuoi. Tu cosa devi avere? Io ti devo dare 4. Tutte, bordello, tutte queste operazioni sospette, 13 euro per 7 euro. Allora, c'è una cosa, fermi tutti, la chiudiamo qui e ci riaggiorniamo? Sì. Sì, avete fatto più quasi tutto. Per me la prossima, limiamo i dettagli e giochiamo. Sì. Cioè, ci presentiamo, esatto. Magari... Scrivi. Ora potete anche avere un'idea del personaggio. Sì, sì, magari sì, scrivi nella chat anche quello che manca. Cioè, a me alla fine mancano i cosi. Ricorda di guardare i tratti, i difetti. Sì, sì, adesso vi chiederò di caricare le schede. Sì. Sì, le abbiamo tutte sempre anche online in comune. Sì. Dove vuoi che le carichi? Su Discord. Su Google. Le mettiamo su Discord? Su io più che altro ho paura, secondo voi, una volta che l'ho fatta così, Google, se torno indietro. Collegate al link lì, l'abbiamo tutti lì. Scendere a prenderla e mi ritiene, però adesso per mandarla da lì a... Però se io la condivido qua sul party, faccio per dire. Cioè potete anche metterla su Discord o su WhatsApp, poi metto io su Google. Ok, c'è, tecnicamente. Proviamo. Bonifica. Mossa. Speriamo. Tac. Tenuto. Andrea Giacomo Vecchi. Sono io. Allora, vabbè, chiudiamola. 7 euro. Va bene, ragazzi. Questo è stato... 700 euro. Oh, tanta roba. Servirebbero. Comunque, se volete anche voi mandarmi 700 euro, fatelo. Non esitate, non scherzo. E cari amici di Tycoons & Dragons e BGDR, oggi è stata una sessione un po' molto tecnica, casino, eccetera, come piace a noi. Dopo aver mangiato, ma presto, diciamo, arriveremo a un senso compiuto e daremo vita a una campagna da tutto questo, non come l'altra volta che abbiamo dato vita solo a caos e confusione ulteriore. Parentesi, potrei non esserci mercoledì prossimo, o meglio, sì, ma giovedì mi alzo molto presto. Quindi... mercoledì prossimo cosa vogliamo fare? Allora, aspetta, anche mercoledì prossimo è prefestivo. Io gioco, non ci sono. Allora faremo un altro giorno e faremo. Facciamo... possiamo fare anche l'8 per me anche. E io sono via 8, 9, 10, 11. Minchia. Vado finalmente a Roma. Per fare io gioco sia lunedì che gioco e mercoledì purtroppo. Ah, niente. Martedì. No. No, alleno. Cioè, fate due partite lunedì e mercoledì, alleni martedì, ma cos'è? Perché poi giovedì... ti frustano anche per un allenamento. No, alto. Perché giovedì non ci alleniamo. Ma martedì non lo so, adesso vediamo. Però sto giocando due partite, secondo me ci alleneremo. Riesci a mandarmi su IBAN? No, io te lo mando l'IBAN, però mi dispiace che devi ma pagare. Non pago. Anzi, facciamo così. Te lo giro. Facciamo così. Ti lascio le monetine spicce. No, adesso si aspetta un attimo. Vabbè, intanto chiudiamo la sessione e ci riaggiorniamo sui prossimi eventi. Per cui, ciao a tutti. Buonasera. Buonanotte, buone botte, buone arci. Arci è tornato, quindi preparatevi con gli ordini per McDonald's. Salutiamo i nostri amici di Glovo, Usman, Ismael e Ahmed, che si sono alternati oggi con noi. E vi diamo appuntamento ai prossimi episodi. Sempre con Tycoon Sendrego, serie VDR. Ciao! Ciao.